E bentornati, bentornati, bentornati in Radio ZM, tutta per voi con nuovi significati per l'antifascismo. Siamo qua in dolcissima compagnia, c'è un sacco di gente, ovviamente siamo tutti distanziati perché i 220 metri quadri della radio si fanno sentire. E Radio ZM, una radio molto grande, esatto, propone questa serie di incontri che diventeranno poi una serie di podcast partendo da oggi e arrivando all'11 di marzo. Lorenzo, presentiamo un po' tutta la gente che abbiamo qui in studio stasera. Manca Hank, ci spiace, però Hank non c'è. Ovviamente questa puntata avrà delle piccolissime levi note di Zona Rossa, ma questo è un altro discorso. Io sono Lorenzo, lui è Guglielmo, benvenuti e benvenute. E abbiamo alla mia sinistra Dan. Buonasera. Buonasera Dan. Dan ovviamente è molto responsabile di quello che sta accadendo adesso, di quello che è accaduto nell'ultimo anno e mezzo della radio, perché è colui, insieme alla sua A-Club Unit, che ci ha aiutato a sistemare tutto questo accrocchio bellissimo. Quindi potremmo dire che è quasi colpa sua. È quasi colpa sua. Esatto, esatto. Quindi lo ringraziamo. E alla sinistra di Guglielmo invece chi c'è? Sono Blanca, buonasera. Yes, buonasera Blanca. Blanca, ragazzi, abbiamo qui con noi la particella più impazzita della... Scusami, devo fare così perché siamo usciti la mazza. La particella più impazzita della rete Student Milano. Siamo molto contenti, l'abbiamo vinta noi. L'abbiamo vinta noi. Che bello. Sì, ciao. Poi c'è anche in piccionaia e nel pubblico c'è anche Martina che salutiamo, che ci saluta con la manina da lontano, dai 220 metri quadri. Ciao Martina. Forse ciao. Ci saranno delle incursioni di Norberto perché è molto impegnato come compagno, non sappiamo se riuscirà a presenziare, però noi lo aspettiamo. E intanto possiamo fare anche un po' di discorsi, di conversazione e fare anche delle telefonate. Ho colto la sprovvista Dan. No, che no, mi domandavo se posso agganciare il telefonino al microfono. Se fa no, no, vai, vai. No, tranquillo, guarda. Abbassiamo, sei già abbassato al minimo. Esatto, niente. L'altro Dan a dimostrare quanto è cazzo tecnologico, è l'unico che ha l'adattatorino prolunga per il Type-C. Type-C, bellissimo. Da mini USB a mini jack. Prossimo livello tecnologico. È quello che è mancato a molta gente, non è riuscito a fare delle telefonate in radio. Dan, vuoi iniziare subito a far telefonate o presentiamo un attimino il tema della puntata? Presentiamo il tema della puntata. Vai, lo presenta Blanca. No, assolutamente no. Va bene, allora il tema della puntata lo lascio presentare a Lorenzo perché ci ha scritto soltanto una tesi universitaria e noi che ci teniamo a fare in modo che venga valorificato il nostro inutile studio all'università. Inutilissimo. Esatto. Vai, soldi Lorenzo, buttati. Raccomando. Allora intanto io vi racconto dopo, però vi leggo quello che siamo riusciti a scrivere io e Guglielmo come bio, come abstract di questa puntata, che secondo me è venuto abbastanza bene e recita queste parole. In che tipo di società viviamo? Chi controlla e approva i nostri canali di informazione? Esiste ancora un utilizzo sano dei dispositivi? Quali e in che modo questi dispositivi stanno plasmando il nostro vivere, le metropoli ed il mondo? La prima puntata del ciclo di incontri radiofonici sulle nuove declinazioni dell'antifascismo nel nostro tempo propone un'analisi sull'identità digitale, o almeno ci prova, e di come questa nuova realtà sia sotto lo stretto controllo mediale dei dispositivi, di come la repressione agisca insistentemente, confermando se stessa, all'interno di una cornice di privazione dell'identità. Esattamente. Solamente questo. Il gancio che mi ha ovviamente tirato Guglielmo ha senso perché la tesi non è propriamente sull'identità digitale, ma le fondamenta di quella che sono di quella che è la tesi è l'identità digitale. Ovviamente la tesi poi prende una piega molto più cinematografica perché è una tesi magistrale di cinema e video all'Accademia di Belle Arti e prende un autore di riferimento che è Harun Farocchi, di cui oggi parleremo non troppissimo, quanto invece parleremo di altri autori di riferimento come Jonathan Creary, Bin Chulan e altri filosofi e intellettuali di questo tema qua. Molto bene, Bianca, un commento? Un commento grandi, bello, un sacco di autori, un sacco di cultura in un'unica puntata. Vero? Fa molto meglio di Chico, però non mi piace quel microfono che hai perché ti si sente proprio basso. Si sente basso, allora atterreremo al microfono. Esatto, sì. Sì. Va bene così. Ci switchiamo, ok. E quindi, allora, mentre preparavamo la struttura di questa puntata, ci è venuta voglia di chiamare Dan. Perché abbiamo pensato che un piccolo contributo anche, esatto. Beh, mi sembra molto interessante l'aggiuntura che state facendo. In effetti se da qualche anno, ma con l'arrivare della pandemia le cose si sono velocizzate molto, tutto si è trasportato nella comunicazione immediata e probabilmente anche le forme oppressive si sono trasportate sulla comunicazione o sulle attività di tipo mediato. Per attività oppressive, ma magari ci manca proprio la giuntura tra attività oppressiva e fascismo. Cioè definizione. Davvero? Esatto. Ci manca soltanto il saltino, ma è solo una questione di definizione, penso, perché ormai cioè, siamo proprio lì. Ma allora, in realtà, dato che sono ignorante, ho fatto i compiti a casa e ho letto la tesi di Lorenzo. Bravo. Invece Blanca la sta leggendo per la sesta volta, ormai la sa memoria praticamente. La cosa che mi piacerebbe, secondo me, definire, perché è importante per la prosecuzione della nostra puntata, è la definizione di identità digitale. Esatto. Allora, c'è questo autore di riferimento che... Adesso parte una diatriba tra me e Dan, che è Bin Chul Han, che è un filosofo. Sono già al coltello. Sono un filosofo sudcoreano nato a Seul, è considerato uno dei più interessanti filosofi contemporanei. In questo caso sto leggendo il retro di copertina di quello che è un testo di riferimento per la mia tesi, che appunto è Nello Sciame. Lui identifica e traccia quelle che sono le linee di demarcazione tra l'homo electricus, che è l'uomo di Marshall McLuhan, quell'uomo che utilizzava dei dispositivi che noi adesso abbiamo abbandonato, come appunto la radio, come appunto il telefono via cavo, come appunto la televisione a tubo catodico, e si sposta su un altro tipo di piattaforma che è quella digitale. L'homo digitalis ha delle differenze a livello caratteriale e caratteristico molto, molto ampie rispetto all'homo electricus. La cosa che mi viene più da soffermarmi, il pensiero che mi ha più colpito, è l'impossibilità dell'homo digitalis di riuscire a collegarsi a un noi unitario in quelli che sono i vari homos digitalis che incontra nella sua struttura. Mi spiego meglio. L'incontro poi effettivo che veniva fatto nella realtà nell'homo electricus era abitare le piazze, abitare le strade, incontrarsi al di fuori. Quello che è il fenomeno più estremo, che potrebbe essere il termine hikikomori per identificare delle persone che non riescono a schiodarsi dal display e rimangono chiuse nella loro abitazione e vivono una vita perennemente online, abitano questi mondi digitali ma non riescono mai a identificarsi in un noi unitario. Questa cosa è un esempio che viene fatta, per esempio, nei commenti Facebook. Lui identifica un termine per identificare quella infinita serie di commenti sotto un post, quindi sotto un argomento, in cui non si trova mai un fine unitario di pensiero. Quella è la shitstorm, per esempio. Vi leggo un passaggio molto carino che secondo me ha senso anche per elogiare quello che stiamo facendo, che è radio. Il mondo dell'homo digitalis presenta una topologia completamente differente al punto alla quale sono estranei grandi spazi chiusi come stadi, anfiteatri, cioè luoghi in cui si radunano le masse. Questi fanno parte della topologia delle folle, che sono gli abitanti appunto dell'homo electricus. Gli abitanti digitali invece della rete non si riuniscono. Manca la loro spiritualità del riunirsi, che potrebbe raggiungere un noi unitario. Essi danno vita a un peculiare assembramento senza riunione, a una massa senza spiritualità, senza animo o spirito. Sono principalmente individui isolati, come degli hikikomori, autosegregati che siedono soli davanti al display. I media elettronici, come la radio, radunano gli uomini, i media digitali invece li isolano. In questo caso, tutto il primo capitolo verte sull'utilizzo dei dispositivi, collegato anche al tema della privacy. Il tema della privacy è un tema che a me ha subito colto all'occhio nel momento in cui ho iniziato a fare video, nel momento in cui mi sono reso conto che le metropoli sono completamente abitati da questi occhi digitali che continuano a filmare quello che trovano in strada, ovvero le videocamere di sorveglianza. Le persone si sono abituate a rimanere in mezzo a questi dispositivi nel momento in cui quello che era il primo occhio digitale inserito a livello informatico, cioè la webcam, è diventato complementare rispetto al portatile. Nel momento in cui le persone hanno iniziato a comprare dei dispositivi con all'interno una videocamera, tutta una schiera di persone ha iniziato a mettere gli scotch da pacco sulle videocamere perché pensava di essere spiata. Questa cosa ovviamente non esiste più. All'interno di questa stanza ci sono almeno 2, 4, 5 dispositivi con 6 occhi digitali l'uno, perché ormai le videocamere sono diventate molteplici sopra ogni dispositivo. Posso fare un'entrata proprio in stile zona rossa? Dan, tu che sei uno che fa hacking, partecipa al laboratorio di hacking da anni, ma sta storia che ti guardavano nella webcam è vero o non è vero? Sì, è abbastanza vera. È vero comunque che abbiamo passato degli anni a coprire l'occhio della telecamera e quando è arrivata la pandemia tutti a staccare lo scotch. Esatto, lì da secoli, esatto. Lasciando della colla orrenda dall'obiettivo. Esatto, perché uno si chiederà anche perché questo qua si mette a parlare della tesi che ha scritto 2 anni fa, perché è proprio in questo momento che, grazie, e dico grazie sotto tante virgolette, alla pandemia, la parte digitale che abbiamo abitato fino adesso e che ci sembrava semplicemente un parco giochi dove fare acquisti, ora si sta spostando molto lentamente tutto lì. Quindi Blanca, se abbiamo capito bene, se c'è la pandemia è colpa di Lorenzo, che due anni fa ha scritto la tesi e adesso per dare ragione alla sua tesi ha diffuso la pandemia globale, giusto? Questo mi sembra un attacco non molto carino però nei confronti del nostro compagno Lorenzo. Guarda, è giornaliera la cosa, almeno ogni 10 minuti, quindi andiamo avanti così. Dai, andiamo avanti. Comunque una vecchia cosa che si diceva all'epoca era guardate che non è che se non si accende la lucettina della telecamera non vuol dire che esatto, vuol dire solo che non si è accesa la lucettina. E dunque può essere ancora carino, visto che siamo in un momento in cui le comunicazioni audio-video abbondano, magari quando non volete essere pubblici coprite magari, non so, con un tocchellino di legno, con qualche cosa la telecamera. Non basta che abbia la lucetta spenta, insomma. Sì, no, questo fa il paio con l'indicazione che invece giustamente i militanti seguono, questa, vabbè, giustamente dal mio punto di vista, semplicemente perché non ho avuto esperienza, il telefono, come in questo momento ce ne sono tre sul tavolo, il telefono ascolta, comunque. Esatto. Per cui anche se tu non stai facendo la telefonata, anche se non c'è nessun tipo di registrazione, il tuo telefono può fungere da registratore per qualcun altro, chiaramente, tendenzialmente. Esatto. Prego, c'è una mano alzata. Prego, prego. No, volevo solo citare una cosa carinissima, visto che questo è l'argomento. La professoressa Zuboff dagli Stati Uniti ci ricorda la sua famosa terza legge di Zuboff, che ogni tanto viene citata al cazzo, ma non, che è più o meno questa. Se una device tecnologica ha la possibilità di sorvegliare e controllare, farà sorveglianza e controllo. Che è anche quello che diceva mia nonna quando diceva se ha le gambe cammina. Quindi, perfetto, meraviglioso, meravigliosa la saggezza alla fine torna sempre. Blanca, un commento? Un commento. Grazie per il commento. Intanto vado avanti. Prego. Ovviamente io, lungi da me mettervi paranoia o parlare di cose che potrebbero mettervi paranoia, però questi sono i mondi che viviamo, il mondo che viviamo è questo qua. Andiamo avanti per rispondere meglio alla domanda di Guglielmo. C'è una bella descrizione che Binciulan fa dell'Homo Digitalis e di come sia cambiato il suo approccio nella rete. Mentre qualche anno fa l'utente digitale non appariva con un nome e cognome, ma appariva sotto un nickname, non veniva obbligatoriamente messa la foto di profilo, invece ora viene messa la foto di profilo, l'abitante dell'Homo Digitalis è quell'individuo, a detta di parole di Binciulan, che è insistentemente qualcuno. Non è più un qualcuno anonimo che si ritrova nei blog, nei siti, quelli che c'erano per esempio negli anni 90, negli anni 80, che avevano questi personaggi con degli pseudonimi, non erano proprio il loro nome e cognome, non avevi la tua identità duplicata online, mentre invece adesso si cerca quella che è la personalizzazione del profilo. I social che abitiamo hanno tutte le caratteristiche in regola per definire insistentemente chi sei: data di nascita, luogo di appartenenza, corrente politica, pensiero, immagini, foto, descrizione, è tutto fatto apposta per creare quella che è il tuo corrispettivo digitale. E questo ci rende felici. E questo in teoria ci rende felicissimi. La vittoria totale della società dell'apparire. La pelle d'oca viene... Ci leva anche la fatica di doverci definire. Esatto, ci leva anche la fatica di doverci magari curare nel nostro aspetto fisico, perché il corpo in tutto questo, quell'amato corpo di cui parliamo sempre con Guglielmo, i corpi... Ah, quanto mi piace a me! Questo caso non viene assolutamente contemplata, e anzi la pelle d'oca a me è venuta quando lui inizia a fare dei discorsi che richiamano i sensi, per esempio il tatto. Noi utilizziamo dei dispositivi che sono touch, che sono tattili, e quando sfioriamo il volto di una persona che stiamo osservando da lontano abbiamo la sensazione di sfiorarla veramente, di coprire queste lunghe distanze. E tutto è nato ovviamente con le telecomunicazioni. Nella mia tesi faccio un esempio che è uno spot della TIM, molto famoso quando Leonardo DiCaprio giovanissimo era agli esordi della sua carriera, l'hanno usato come testimonial, ed è interessante perché l'ambientazione è totalmente bucolica, quindi siamo in un contesto in cui probabilmente in quel periodo non prendeva neanche il telefono, siamo in una valle toscana bellissima, no? Il sole a picco, lui è lì che sta pensando al niente, guarda l'orizzonte, gli si poggia una farfalla addosso, e in quel momento gli suona il suo nuovo, ovviamente ultimo, modello di telefono, che ora per noi è molto obsoleto, in cui gli arriva una email. Quella era la prima email che ti poteva arrivare su un dispositivo portatile. Lui guarda la mail con sdegno, guarda il dispositivo e dice: adesso non è il momento. E il testo dello spot si chiudeva con: la tecnologia è importante, ma anche tutto il resto. Quindi le grandi corporation lo sanno che tu hai altro tempo da dedicare nella tua vita a non guardare i dispositivi, ma faranno di tutto per farti comprare un dispositivo. Beh, è qualcosa che per esempio adesso la team non farebbe mai come spot, qualcosa che adesso, esatto, ci pare assurdo. Esattamente, ignorare completamente la notifica che ti è arrivata sul telefono. Invece, stai scherzando? Adesso la team è più verso quello che è il concetto molto interessante di un altro autore, che è Jonathan Crary, che è sempre all'interno di questa tesi, che poi prima o poi renderemo pubblica, perché beh, noi chiaro, è quello che non facciamo. È folle chiederci questa tesi. Tra l'altro qualcuno o qualcuna si potrebbe ricordare e mandare un bel messaggio alla chat di Radio Zam che abbiamo su Telegram, che è Radio Zam trattino basso chat, insultandomi e dicendomi che sto facendo la copia sputata di Saperi Autogestiti dell'anno scorso. Ma non ha seguito nessuno. Sapere cos'è Saperi Autogestiti? No, adesso scriviamo nella chat di Saperi Autogestiti, scriviamo: oh guarda, stanno facendo la copia. Esatto. Andando avanti con questa riflessione che ci porta appunto in questo mondo digitale che è abitato dall'Homo Digitalis, l'occhiolino che viene fatto dalle grandi corporation a Jonathan Crary in questo suo libro molto emblematico, che è 24/7, Il capitalismo all'assalto del sonno, è trovarci in una realtà non dove tu sei per forza attivo 24 ore su 24, 7 su 7 come una macchina, ma dove hai la possibilità di fare qualunque cosa a qualsiasi orario, comprare su internet, fare delle telefonate, insomma lavorare, esatto. C'è la possibilità in questo mondo in cui tu possa non fermarti mai, poi non è detto che tu lo faccia, ma questo sta creando delle conseguenze nell'individuo, perché la possibilità in qualsiasi momento di compiere le stesse azioni che una volta erano confinate soltanto all'apertura del negozio piuttosto che all'orario lavorativo, mentre invece adesso, avendo sdoganato il 24/7, e tutto questo lui fa un excursus molto interessante, perché parte dal suo ragionamento a quella che è l'implementazione della rete elettrica, perché la rete elettrica, quindi la luce, serviva per due motivi secondo lui. Uno è per contrastare la paura del buio e quindi riuscire ad andare in giro di notte in maniera molto più sicura, e due è per le insegne dei negozi. Perché le insegne dei negozi da lontano ti fanno capire che sono aperti. In questo momento qua le insegne dei negozi non si spengono neanche durante la chiusura. Sì. Arriveremo a un momento in cui, quello che è già internet adesso, i negozi non possono chiudere. Amazon puoi comprare alle 3 del mattino come alle 3 del pomeriggio. Certo, ed è quella la sua forza. Esattamente. No, guarda, alcune cose, punto primo, beh, cioè, mi permetto il contraddittorio, anche se lascia il tempo che trova, nel senso che insomma è poco interessante, però cioè, se è vero che era importante contrastare la paura del buio e conquistare qualche ora di luce, perché non ce lo ricordiamo, ma forse già i nostri bisnonni andavano a letto alle 6 di pomeriggio scusate, ce la posso fare a usare delle parole normali, il 16 di marzo del 1820 la gente andava a dormire alle 6:10, perché era buio. Adesso. Quindi o stavi in casa col fuoco, oppure non potevi andare in giro, perché materialmente non potevi vedere, c'erano pochi posti illuminati, c'erano delle guardie, c'era il re, insomma c'erano delle autorità e basta, e se andavi in giro era tuo rischio e pericolo, perché era notte, cioè non ci vedevi. Sicuramente per contrastare il buio. Dopodiché l'invenzione della corrente elettrica in realtà è motore, cioè è diventata, certo, molto in fretta motore, industria, fabbrica, produzione, perché tutto il resto, cioè se non è l'insegna della, non è proprio materialmente l'insegna del negozio che serve ad attrarre, è l'energia che mi serve per lavorare, per produrre, per guadagnare, sempre nello stesso campo stiamo, magari semplicemente in una materia diversa. No, la cosa che mi fa un sacco pensare, che dicevi prima tu e che mi fa citare di nuovo Dan con la saggezza popolare, e cioè quel famoso detto, che è il proverbio, che è: il diavolo sta nei dettagli. È interessante come 24/7, come tu scrivevi nella tesi, appunto la cosa fondamentale non è costringere le persone a lavorare 24/7, è impossibile, morirebbero, starebbero male, esistono, perché ancora esistono dei diritti dei lavoratori, dei sindacati, che magari si metterebbero di mezzo. È il dettaglio che fa il diavolo, cioè è possibile, non devi farlo per forza, basta che tu lo possa fare, c'è la possibilità. Per cui alle 4 del mattino ti capiterà magari che devi lavorare perché ti è arrivata quella mail e alle 7 apre il negozio, perché ancora magari ci sono gli orari da rispettare, ma rimane il fatto che tu alle 4 di mattina, 100 anni fa, non era arrivato il carico di rame entro la 8 ore, si chiudeva il negozio, ci pensava domani, e era tutto un mondo che aveva degli altri tempi, gli altri modi di esistere. Per cui cioè, su tante cose, anche per esempio, cioè ci possono controllare dal telefono, poi magari non succede, ma comunque è possibile. Ci possono vedere in 50.000 telecamere che poi magari cancellano le immagini, ma comunque è possibile. Per cui il fatto di aver fatto sbarcare il controllo piuttosto che le possibilità ovunque e basta, senza poi bisogna che poi effettivamente le cose accadano veramente 24/7, però basta che mi sia possibile, già va benissimo per il capitale, per il controllo, per la pressione. Su questa cosa mi è fatto venire in mente c'è una compagnia molto popolare in questo momento che sta anche assumendo, si chiama Netflix. Se andate a dare un'occhiata al manifesto etico, diciamo, di Netflix, quello che propone ai suoi aspiranti lavoratori, dirà che non ci sono vacanze predeterminate, non ci sono giorni di ferie predeterminati, sta al lavoratore decidere, certo, come ovviamente e quando vuole smettere di lavorare, è assolutamente libero, non ci sono regole. Qualche considerazione su questo potremmo fare? Abbastanza. Ovviamente una cosa che vorrei sottolineare è che noi non abbiamo la verità in mano, ovvero che non siamo qua a spargere verità. Noi vogliamo semplicemente dare un po' di consapevolezza. È ovvio che sarebbe bellissimo poter riuscire a vivere al di fuori di tutto questo sistema, eccetera. È un po' impossibile nel momento in cui noi abitiamo le metropoli, però avere consapevolezza su quelli che sono gli utilizzi dei dispositivi e come vengono, appunto, come dice Guglielmo, c'è la possibilità che vengano fatte delle cose. Dan diceva prima, se una macchina è impostata per osservare, sorvegliare e controllare, osserverà, sorveglierà e controllerà. Quindi facciamoci qualche domanda e utilizziamo i dispositivi in maniera consapevole. Una cosa che vorrei sottolineare è che, sì, è che sul sito abbiamo un dominio.org, unit state of mind, ci sono delle quantità di documenti da scaricare su un utilizzo sano dei dispositivi. Così mi ricordo. Sì, sì, beh, il discorso è quello, unit a club, il discorso è su l'antico discorso dell'autodifesa digitale, l'antico discorso della consapevolezza dell'uso degli strumenti in modo da poter decidere cosa fare, magari ci interessa filtrare alcune informazioni o magari ci interessa semplicemente difendersi o ottenere delle modalità, tra virgolette, sicure di comunicazione o più sicure di comunicazione. Sì, sì, questo è un discorsone enorme, ma noi siamo partiti dagli anni 90 dove si cercava di incitare i singoli a dotarsi degli strumenti, la famosa cassetta degli attrezzi, dunque bisogna imparare a fare delle cose perché è necessario. La cosa si è spostata, è cambiata abbastanza già da una decina d'anni, e adesso la difesa non è più la difesa del singolo, ma è la difesa della collettività, che si difende sotto forma di leggi, dunque vengono fatte delle leggi che tutelano la comunità. E l'individuo non è più tenuto o chiamato a formarsi, può semplicemente pigiare un bottone, certo che comunque sarà tutelato in qualche modo. Personalmente credo che si stia per arrivare a un'ulteriore differente fase. Ovvero? E diciamo che abbiamo la consapevolezza del fatto che le leggi hanno una valenza nazionale, per esempio, mentre le entità che si occupano di gestire il tempo libero, come potrebbe essere, non so, Facebook per esempio, delle persone, o anche di gestire affetti, possibilità lavorative, non hanno questa vocazione nazionale, sono delle entità, sono delle piattaforme e hanno una vocazione neanche solidale. Ma neanche per sbaglio, non scritta da nessuna parte, la loro unica vocazione è quella del profitto, e di conseguenza il mondo che creano e le possibilità che danno a disposizione nell'utilizzare questi strumenti rispecchia questa vocazione. Certamente. Prego, iniziamo con le telefonate, perché oggi è anche momento di telefonate, perché abbiamo avuto la fortuna di pescare Dan e Dan ha avuto la fortuna di pescare altra gente che andiamo a chiamare. E poi, perché se non telefoniamo qualcuno in ogni trasmissione che facciamo, e Lorenzo ci scala un braccio, sì, esatto, iniziamo a non cose bruttissime. Più, malissimo. Esattamente. Siamo... Ormai è così, le telefonate sono dentro il nostro DNA. Chi stiamo chiamando? Stiamo chiamando Blallo. Oh, ciao Blallo. Attenzione. Scusate, c'è una cuffia che suona malissimo. Eccoci. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao, benvenuto in diretta, sei su Radio ZM. Madonna. Vero? Di colpo. Lo so, l'ultima volta che ti ha chiamato 105 non eri così emozionato, vero? È incredibile. Dai, molto più importante. Cazzo, sì, dai. Sì. Ma noi non facciamo pubblicità commerciale. Mai, infatti. Assolutamente. E quindi sei stato pescato senza padrini e padroni. Esatto. Allora, ti infamiamo subito, cioè anzi, infamiamo subito, è stato Dan, è colpa di Dan, chi sta chiamando Dan che è lì e non parla, tra l'altro, si sta nascondendo col microfono in mano. Lascio che... Maledetto. Facciate domande. Beh, allora, intanto grazie mille per aver risposto a Dan, perché se avessimo chiamato noi magari non l'avresti fatto, e ovviamente questa è una puntata speciale, perché abbiamo chiamato te, no, non soltanto per questo, perché abbiamo iniziato questo ciclo di incontri nuovi in cui vogliamo delineare quelli che sono i nuovi significati per noi dell'antifascismo. Ovviamente siamo stati tirati in mezzo io e il prode Guglielmo. Buonasera. Eccolo lì. per iniziare questa primissima puntata in cui vogliamo parlare di dispositivi di controllo. E già abbiamo detto qualcosina comunque. Sì, no, avete detto dispositivi e controllo, che sono due cose pervasive nella nostra società contemporanea, direi. Non lo so, volete... definiamo bene la cosa. Dispositivi, tipicamente si parla di dispositivi di comunicazione, no? Non di dispositivi di legge. Certo. E controllo è uno dei mezzi e anche uno degli scopi ultimamente con cui... il sistema in cui viviamo e siamo immersi va avanti, si autosostiene e anche si autoreplica e finanzia. E non saprei, avete qualche spunto su cui volete che approfondiamo un po' meglio? Vabbè, qua c'è imbarazzo tra chi vuole parlare prima. Vai tu, vado io, Blanca. Vuoi parlare? Perché abbiamo anche una componente molto giovane. Vuoi parlare di dispositivi, di controllo? Di che dispositivi, che controllo? Allora, forse tu non hai sentito... Ciao, sono Blanca. Forse tu non hai sentito gli argomenti di cui stavamo parlando prima. In ogni caso mi volevo attaccare alla parola possibilità, che si è ripetuta varie volte precedentemente. Parlando di te, il fatto che, come si diceva, questa sta in qualche modo andando a equivalere a una libertà che è la libertà precedente, che è reale, quando non esistevano questi dispositivi digitali. Bene, questa libertà in questo momento, secondo me, come nativa digitale, equivale a alla possibilità, le possibilità che ci danno questi nuovi dispositivi di essere sempre collegati, e questo si sta andando a sostituire alla libertà che prima era fondamentale e che in questo momento in realtà si sta scambiando per qualcosa che libertà non è affatto, che quale altra parola è il controllo. Perdonami, Bianca, non ho capito la domanda. Non è una domanda, è una considerazione a cui speravo per attaccarsi. Tutti attaccati. È un ottimo spunto tra queste due parole, libertà e controllo. È un ottimo spunto, e noto anche però che sono due libertà diverse. Che prima, perché la libertà che è stata introdotta da questi dispositivi, parliamo tipicamente degli smartphone e degli smartphone in particolare attaccati a una connessione dati, hanno introdotto la libertà di poter fare qualcosa. Penso ad esempio agli infiniti servizi a cui possiamo accedere attraverso questi furbofonini, e abbiamo barattato questa libertà di fare qualcosa con la libertà dal controllo, la libertà dall'essere monitorati e dall'essere profilati. Quindi sì, è stato un out death, è stato molto molto, diciamo, rapido e anche molto reso molto comodo, perché le libertà che ci sono state proposte sono state addolcite con tutto lo zucchero possibile attorno per essere scambiate con la nostra libertà dal controllo. Il controllo adesso è pervasivo perché questi strumenti noi siamo abituati ad averli sempre addosso. Io stesso, quando passo quando porto fuori a fare la passeggiata il cane, non posso fare a meno di avere il mio telefonino, perché altrimenti potrei perdermi qualcosa. Ci sono tanti meccanismi con cui questo è stato è stato favorito, se non proprio volutamente introdotto, e però ormai è così. Abbiamo sviluppato delle forme di dipendenza profonde da questi strumenti, e abbiamo ottenuto un controllo che prima neanche la Stasi si sognava, nonostante l'aura leggendaria di controllo capillare della società. Questo è molto maggiore, anche se non è evidentemente in mano a pochi censori che hanno orecchie e occhi dappertutto, ma è più nelle mani di uno strano network di privati che, se ovviamente, come dire, messi sotto pressione dall'autorità, ben volentieri cedono le informazioni su di noi accumulate all'autorità, ma che in realtà esercitano questo potere di controllo principalmente per alimentare il profitto. Questo era tutto molto astratto, però per andare più nel dettaglio nel concreto, noi abbiamo questi dispositivi in tasca. Con questi dispositivi andiamo sempre in giro, adesso in maniera più o meno controllabile, ma molto spesso diciamo segnaliamo la nostra posizione, la nostra geolocalizzazione in tempo quasi reale, con queste tracce viene fatto un profilo del... non è tanto importante sapere dove siamo andati, ma diciamo globalmente queste tracce offrono un profilo delle nostre abitudini e della nostra area di azione tipica, e con questo ci vengono proposte pubblicità sempre migliori, sempre più mirate, sempre più invoglianti e che costa, diciamo che valgono sempre di più da vendere, perché sono sempre di più precise. Precise per noi. Sì, tranquillo, scusami, se ti interrompo, quella caratteristica, cosa per cui ti basta stare vicino a una persona e al suo smartphone, per cui poi entro breve Facebook ti consiglia l'amicizia proprio con quella persona. Dici, ma scusa, ma io la prima persona che l'ho vista, non abbiamo amici comuni, e guarda caso Facebook propone proprio questa cosa. Perché? Prossimità. Perché i due dispositivi erano vicini alla stessa cella, entrambi utilizzano Facebook, e allora hanno capito che bisogna fare così, così le persone diventano amiche subito e poi possono vendere i dati delle due persone che si sono incrociate, eccetera, eccetera. Esatto, la connessione sociale è uno dei dati più importanti che i social network possono avere su di noi, perché ci definiscono molto bene, diciamo che è molto facile profilarci per similarità con altre persone che frequentiamo, questo tipicamente è molto efficace. Però il tema qual è? Cioè il tema è l'antifascismo, dove sta il fascismo qui? Non lo so, io personalmente ci vedo un fascismo culturale, perché diciamo sapere troppo è pericoloso, avere troppo il controllo dal livello globale, dal livello capillare delle opinioni dei singoli e delle singole è molto pericoloso. Adesso non voglio trarre lezioni sociologiche perché non sono in grado, però cioè, abbiamo un indizio sul fatto che la possibilità di accedere ai dati di opinione politica, di orientamento politico di grandi parti della popolazione, questo è avvenuto principalmente negli Stati Uniti negli anni recenti, a partire dalle elezioni del 2016 fino a queste ultime, è, diciamo, avere questi dati che costano relativamente poco per attori quali quelli che giocano diciamo, la partita delle elezioni di una nazione, è molto pericoloso, perché dà accesso a delle informazioni con cui miratamente si possono ottenere grandi risultati con pochi sforzi. Io metto tante pubblicità sul mio candidato nei posti giusti, convinco ad andare a votare la giusta quantità di persone che mi dà il giusto numero di collegi che elegge poi il mio candidato. Questo, come dire, mi pare molto orientamento attivo delle opinioni. Assolutamente, non è sì. Un confronto democratico. Assolutamente sì. L'altra cosa che secondo me accomuna tantissimo questa condizione con il fascismo è il fatto che non è più possibile fare niente di illegale. Cioè, se uno cerca, lo dico proprio senza peli sullo stomaco, tanto questa radio nasce da questo luogo, per cui se ti vuoi organizzare per colpire il capitale, o il capitale, il potere, il fascismo, piuttosto che il potere costituito, eccetera, è praticamente impossibile. Arrivano prima loro. È impossibile fare delle cose, dei sotterfugi, è impossibile sfruttare la propria libertà individuale, che comunque è garantita, perché fino a che non si compie il fatto non si fa reato, perché esatto. il tentarsi, il tentato omicidio è reato, ma la tentata rivoluzione non è reato, e nemmeno la rivoluzione stessa è reato, ma se ti organizzi per fare la rivoluzione lo sanno, ti controllano, ti possono fermare, e ti fermano proprio su quei meccanismi tecnologici che ti permettono di raggiungere altre persone. Cioè, banalmente, se tu apri una pagina con scritto odio la Turchia, sono curdo, penso che ci mettano 6 giorni, 7 giorni, te la chiudono. Qualcuno, non si sa come, ti chiude quella pagina. È proprio quello di cui appunto volevamo chiarire un po' durante questa puntata. Chi sono questi controllori? Come dice la citazione di Watchmen di Alan Moore, è chi controlla i controllori in questo caso. Noi abbiamo delle entità che decidono loro che informazioni bypassare o meno, che censura attuare o meno. Sì, e siamo arrivati adesso, purtroppo siamo, almeno il mio riferimento culturale è incredibilmente statunitocentrico, e questo è problematico, me ne rendo conto, però negli ultimi giorni è successa questa cosa molto paradossale, per cui negli ultimi giorni, ieri, il Senato degli Stati Uniti, che è incaricato di emettere il verdetto, di prendere la decisione su un processo di impeachment come quello che a cui è stato sottoposto per la seconda volta Trump, ha, diciamo, non ha ritenuto colpevole Trump di incitamento e di tentata sedizione, e però Twitter ha bandito per sempre Trump, e tra i due forse la conseguenza politica, diciamo, la conseguenza politica di bandire Trump, di condannare Trump da parte del Senato, sarebbe stata l'interdizione perpetua alla possibilità di essere eletto nuovamente. Però forse un danno maggiore gliel'ha fatto Twitter, che l'ha bandito per sempre dalla sua piattaforma, perché Twitter è una forma di, diciamo, diffusione delle informazioni capillare molto veloce, molto potente, molto usata. Da lui soprattutto. Non lo so, quindi chi sono questi censori? Questa cosa c'è. Tipicamente sono delle aziende che sono nate nella Silicon Valley. Però non è vero dappertutto, questo sempre perché siamo molto americanocentrici, non è vero nel senso che questa penetrazione queste aziende ce l'hanno nell'Occidente allargato, ma non ce l'hanno ad esempio in Cina e non ce l'hanno nella Repubblica Russa, perché c'è un muro di confine che, nonostante ci raccontiamo che ha vinto il mercato libero, non è così, e ci sono alcuni posti dove queste aziende non entrano. E c'è qualcosa di analogo, con forme analoghe, costruito però tipicamente dallo Stato, da apparati asserviti agli stati locali. Ad esempio mi viene in mente WeChat e QQ in Cina e VKontakt in Russia. E non lo so, diciamo, è molto buffo, perché io non sono un gran lettore, ma so di scenari futuribili e ipotizzati negli anni 70-80, in cui le corporation private si sostituivano in qualche modo agli stati o acquisivano poteri analoghi a quelli degli stati, sembra quasi che una visione distopica che non mi pare troppo lontana dall'attuale. No, anche, anche se con un gioco di reparti molto complicato, come Ritorno al futuro parte seconda, in cui si vedono le grandi corporation che abitano i palazzi più alti della metropoli. Lallo, mi stavo domandando, ma se vediamo l'arrivo del fascismo, magari potremmo provare a definirlo come una forma di repressione anche tecnologica, e invece la parte di resistenza dove potremmo trovarla? In quali pratiche? Come da buona tradizione, i movimenti in questo sono incredibilmente frammentati. Oh, meno male che quelle cose non cambiano mai, dai, almeno quello. Vero, eh? Almeno abbiamo delle certezze. Esatto. Non lo so, a me pare che ci siano varie posizioni da questo punto di vista. C'è chi dice no, bisogna attraversare, abitare e combattere da dentro queste piattaforme, quindi chi propone di comunque avere, faccio l'esempio, pagine su Facebook o feed di Twitter molto attivi su cui fare propaganda o controinformazione o, diciamo, azioni comunque volte alla rivoluzione in qualche modo. C'è chi dice no, bisogna assolutamente tenersene fuori, e c'è chi dice no, usiamo solo quelle buone. Ad esempio va molto di moda Telegram tra i compagni e le compagne. Telegram non è una piattaforma diversa da WhatsApp, è solo in mani diverse. C'è chi dice no, ma ci stanno le piattaforme dei compagni. Signal è una piattaforma dei compagni. Questo non si capisce. Io tra tutti, come dire, i player commerciali mi sento di sostenere sicuramente di più un'applicazione, un servizio, perché non è solo un'applicazione, un servizio tipo quello di Signal, che è che è gestito fondamentalmente da un anarchico o un gruppo di anarchici californiani, però sono anarchici per davvero, mi sento di dire che sono compagni pure loro, anche se non ci ho mai parlato. Però è sempre un servizio centralizzato e censurabile, c'è una serie di problemi che stiamo vedendo in questi giorni. Una delle alternative possibili è, allora auto-organizziamoci e, diciamo, come ci piace fare anche in questo ambito, cerchiamo di creare delle realtà di resistenza di taglia più piccola, che non siano mondiali, che non abbiano la struttura di una corporation per dover sopravvivere, o di una onlus ma molto molto molto finanziata come Signal, ma qualcosa di più piccolo che comunque funziona per i compagni e basta. Penso all'esperienza di autistici, che fornisce chat e caselle di posta elettronica e blog, ma penso anche a Lattuga, che sono i compagni bolognesi, insomma ci sono esperienze di questo tipo, penso negli Stati Uniti a Rise Up o in Svizzera in Merda, nonostante il nome sia molto buffo in realtà si leggerebbe in Merda, in Merda. Comunque, beh, diverso, in Merda. ci sta sì. Arrivano anche delle, ovviamente parlo a tutti e tutte, ci arrivano dei messaggi sulla chat di Telegram, perché la radio ha una chat di Telegram, in cui ci chiedono, ci fanno una domanda con delle lettere che io leggo, XMPP e un punto interrogativo. XMPP è un protocollo, vuol dire che è una lingua con cui delle applicazioni possono parlarsi. Ad esempio Autistici fornisce, se si ha un account Autistici si ha anche a disposizione un account XMPP, detto anche Jabber, con cui si possono fare delle chat istantanee, tipo Signal, tipo tutte le chat, anche sul cellulare esistono applicazioni per usare questi protocolli. Questo protocollo si chiama, una su Android che mi viene in mente si chiama Conversation. Io le uso quotidianamente, a parte che in questo momento abbiamo un po' di problemini con Conversation, con Jabber Autistici, ma a parte questo piccolo specifico dettaglio del momento, sì, funziona, però cioè il pragmatismo mi obbliga a notare che la comodità d'utilizzo, la comodità di adozione è incredibilmente più bassa rispetto alle app e ai servizi centralizzati a cui siamo abituati dai vari Play Store. Nei Play Store clicchi sull'icona, scarichi l'applicazione, due tocchi e sei autenticato e parli con i tuoi amici e le tue amiche. Sì. Invece in una situazione tipo XMPP no, devi sapere qual è la mail della persona con cui vuoi parlare per poterci parlare, e quella persona deve aver configurato anche lui o lei il client di XMPP per parlare. Questo sembra ostico, in realtà è tutto molto facile, però è più di due clic a cui siamo abituate. Però fa molto 2006 quando con MSN dovevi avere il contatto mail dell'altra persona. E figurati convincere, è un meccanismo analogo. Convincere un'orda di persone che sono abituate comodamente a risolvere questo gap di comunicazione in due clic, convincerle a tornare indietro, secondo me, è la vera sfida. Perché il problema è questo: io ho un sentimento di cui vi vorrei parlare, che è un sentimento molto negativo del vivere in un appartamento in cui non sono capace a risolvere dei problemi qualora si presentassero. In quel caso mi si rompe la lavatrice, devo chiamare l'idraulico, mi si rompe il forno, devo chiamare l'elettricista. Ci sono una serie di skills che vari lavori possono competere e possono fare. Quella della tecnologia, ahimè, è una battaglia un po' persa, perché nel momento in cui si rompe un dispositivo non sai ripararlo e devi ovviamente portarlo a riparare, ma anche l'utilizzo che tu fai del tuo dispositivo è chiuso dall'azienda che ti vende il dispositivo. Unit presenta, se non sbaglio, un PDF in cui ti spiega cosa fare di un dispositivo Android quando viene acquistato la prima volta, per riuscire a tenerlo sotto controllo, tra virgolette. Confermiamo. Confermate, esatto. Confermo. Ci arrivano altri messaggi, innanzitutto ringraziamo DM3 per il messaggio appunto dell'XMPP che ci è stato chiarito in telefonata adesso, e poi ci arriva un messaggio da Carlo che appunto positivamente risponde: sì, si possono fare dei server self-hosted. Chiaro, no? Cosa vuol dire? Chiarissimo. Ma se qualcuno lo ripetesse, secondo me sarebbe ancora più chiaro. Lallo, vuoi dirlo? Beh, no, vai Dan, vai. Self-hosted significa darsi i propri servizi. Per esempio, invece che appoggiarsi su un servizio dato da altri, che potrebbe essere un'entità commerciale che lo dà gratis, per usare il famoso slogan, ricordandosi che se il servizio è gratis vuol dire che il prodotto sei tu. Sante parole, grazie. Veramente una cosa meravigliosa da ripetersi ogni tanto. E dunque darsi dei servizi in proprio. Per esempio, se ho un IP pubblico, come dovrebbe essere ormai per legge obbligatorio per ogni fornitore nel concedere un indirizzo pubblico anche ai privati cittadini, io potrei tenere un computer sempre acceso e offrire la mia pagina web, dunque avere una presenza su internet 24 ore su 24, certo mi costa di elettricità, senza bisogno di appoggiarmi su un servizio esterno. Molto interessante. E questo è il modello più estremo che non ho riportato la parola purtroppo è mutuata da esperienze brutte, ma diciamo di autarchia tecnologica, ovvero ognuna e ognuno, se ha voglia e sbatta, deve poter essere messo in condizioni di offrire i propri servizi in una maniera accessibile. Purtroppo questo è sia fattivamente dal punto di vista dell'infrastruttura, sia tecnologicamente molto complicato. Quindi la situazione è molto, molto difficile. Cioè, per esempio, è indubbio che se ci si mettesse di molta, molta voglia, ci si potrebbe tirare su il proprio server mail e avere diciamo la propria io@ilmiodominio.com. Questo richiede una serie di .org, perché non ci piacciono i .com. Questo richiede una serie di conoscenze specifiche e un costo annuale trascurabile, ma comunque un costo, che diciamo rendono una barriera di ingresso insormontabile rispetto a farsi l'account su Gmail per comunicare via mail. E questo è un problema dei tempi, ma forse questa è una forma di fascismo, nel senso non ti puoi permettere la resistenza, cioè, come una volta non, esatto, potevi, non ti puoi permettere la fucile, non c'avevi soldi, adesso non ti puoi permettere le competenze, il tempo, l'energia per mettere, esatto, sul tuo server, programmare i tuoi programmi. E la società si aspetta, e la società si aspetta da te che hai un indirizzo, di avere un indirizzo mail, perché se non ce l'hai c'è qualcosa che non torna, cioè, allora sei uno strano, sei uno che vero, vuole isolarsi. Verissimo, cioè, verissimo. Se non hai il telefono, se non hai lo smartphone, o sei povero, o sei vecchio, o sei matto. Esatto. Questo è una forma di fascismo culturale, forse. Molto comodo, in cui ci mettono questi abiti molto comodi, a quanto pare... sta a noi toglierceli in qualche modo. Per tornare ai proverbi che ci piacciono molto, esatto. Qualcuno diceva una volta che la verità la sentirai sempre solamente dai bambini, dai matti. E poi? L'altro che abbiamo citato, quell'altro che non hai telefono. I pazzi, no? I pazzi. Va bene, Blallo, allora noi ti dobbiamo ringraziare tantissimo per questa saggezza sparsa. Io non ho capito una mazza, Lorenzo ci ha capito qualcosa perché ci ha fatto la tesi di laurea, Dana ha capito tutto ovviamente, Blanca ci siamo. Annuisce, ha capito. Ti ringraziamo moltissimo del contributo. Adesso noi stacchiamo con un po' di musica per dare della tregua ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. E secondo me, spero che Blallo mi senta, non sarebbe male continuare a chiacchierare di queste cose, dispositivi di controllo, autogestione dei saperi tecnologici, eccetera. Perché soprattutto i militanti fanno un sacco di vaccate. Tantissime. Tipo, oh ragazzi, mi fate la roba, ci becchiamo quel giorno in quel posto. Ho scritto su WhatsApp a 30 persone e in quest'ora arriva la notifica. Piuttosto che, oh ragazzi, dobbiamo aprire una nuova mail, Gmail o Yahoo? Dici, no dai, siamo artistici, per favore. Cioè, cose di questo genere ne accadono quotidianamente e tendenzialmente sono io che faccio queste vaccate. No, tranne quella del messaggio, le altre le faccio. Per cui, boh, nel senso... tutto l'anno c'è bisogno di antifascismo, non soltanto con l'avvicinarsi dell'anniversario di Dax. Ne riparleremo sicuramente e tampineremo Dan che tampinerà te. Grazie. È un domino. Molto volentieri. Grazie mille, Blallo. Un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, Ne. Ci sentiamo tra pochissimo. Esatto, ci sentiamo tra pochissimo. Bene. gonna run to? To the man, where are you gonna run to? To the man, where are you gonna run to? To the man, where are you gonna run to? To the man, where are you gonna run to? Pas du même groupe sanguin, pas du même... Bentornati, bentornate. Abbiamo già un'altra telefonata freschissima. Salutiamo Leonard. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Anche conosciuto come Illinois. Allora, la questione è questa. Abbiamo avuto una fortuna incredibile, perché oggi stiamo facendo questa trasmissione con la presenza di Dan. Scusa. La presenza di Dan qui da noi. Ovviamente ti ha chiamato lui, lo possiamo dire senza nessun problema. Stiamo parlando noi oggi di repressione tecnologica. È un ciclo di puntate che sta cercando di riattualizzare il concetto di antifascismo. Oggi parliamo di fascismo e repressione tecnologica. Quindi è un tema leggermente spostato rispetto al motivo per cui ti stiamo chiamando. Il senso della chiamata è questo. Che noi, beh, purtroppo si parla di repressione lo stesso, perché a quanto abbiamo capito tu bazzichi spesso la Catalogna. Hanno arrestato un ragazzo, un musicista che fa rap in zona Catalogna, Pablo Hensel. Perdonatemi, io non ascolto il rap, ma qui al nostro interno c'è un folto e nutrito gruppo che fa hip hop, la Rap Caverna Posse, quindi siamo abbastanza sicuri che in questo momento saranno incollati con l'orecchio alla cassa per sentire noi che parliamo di questo argomento. Dici un po' cosa succede lì in Catalogna, come mai l'hanno arrestato e boh, qual è la situazione? Allora, inizio subito dicendo che in qualche modo anche questa notizia in me è collegata a quello di cui state parlando, perché uno dei motivi per cui Hensel è stato arrestato sono alcuni tweet. Cioè il fatto che lui abbia utilizzato il suo account Twitter piuttosto anche, come dire, numeroso dal punto di vista dei seguitori, dei followers, eccetera eccetera, per attaccare la corruzione della corona e la corruzione delle forze dell'ordine. Quindi in qualche modo, come dire, il cerchio si chiude sul fatto che fascismo, repressione digitale non sono così sconnesse come si potrebbe pensare. La cosa ad esempio da ricordare per introdurre un attimino la questione di Hensel è il fatto che la Spagna, che è diventata una democrazia dal 1978, si è trascinata dietro moltissimo di quella che era la struttura franchista del potere, in particolare per quanto riguarda il sistema giudiziario, che è fortemente influenzato proprio dal franchismo stesso, tanto che negli ultimi anni abbiamo avuto parecchi esempi di repressione molto dura nei confronti proprio di artisti e personaggi per avere solo espresso idee. Willy Toledo ha ricevuto delle multe, che è un artista, un attore di cinema anche piuttosto famoso, ha ricevuto delle multe molto salate per delle bestemmie. Un gruppo di burattinai baschi è stato condannato a un anno di prigione per uno spettacolo che aveva messo in piedi, in cui venivano prese in giro le forme di repressione dello Stato spagnolo nei confronti della popolazione basca. Per arrivare a questi due musicisti, perché c'è anche il caso di Valtonyc, che è un altro rapper, anche lui indagato dalla magistratura spagnola, che però nel frattempo è scappato probabilmente in Belgio e quindi attualmente non rischia di andare in galera. Tornando invece alla vicenda di Pablo Hensel, è una vicenda emblematica, perché ha creato soprattutto nell'ultimo periodo molto rumore, perché anche il mondo della cultura, il mondo dell'arte in Spagna si è schierato chiedendo una non detenzione di questo artista, anche perché, come sappiamo, in Spagna in questo momento il governo, c'è un governo di centrosinistra, si può dire, con PSOE e Podemos, e quindi il fatto che un artista rap venga incarcerato per una canzone o per un tweet in un contesto del genere risulta ancora più paradossale. Effettivamente, dopo questa pressione a livello nazionale, il governo è intervenuto modificando in parte alcune di queste leggi, ma di fatto la macchina repressiva nei confronti di Azel era già partita e attuare, e quindi Azel è stato arrestato. È stato arrestato questa mattina, tra stanotte e questa mattina, nell'università di Leida, università nell'interno della quale si era diciamo barricato con una serie di studenti solidali che hanno cercato di proteggerlo, ma poi è stato portato via. Dovrà scontare una condanna in prigione, quindi come dire proprio fisicamente carcerato di 9 mesi. Beh, fantastico, tutto il mondo è paese, no? È bellissimo, come qui da noi. Beh, ci sono ancora le leggi del codice Rocco, c'è ancora devastazione e saccheggio, un reato che non ha nessun senso, come se già calassero, come ricordavo giustamente, Zero Calcare in un fumetto, come se arrivassero gli urli, no? Iniziassero a saccheggiare rubando i prosciutti dei supermercati, ovviamente, e tutti i giorni, spaccando le cabine telefoniche che non ci sono più, spaccando, non so, le colonnine dell'Enel, che cazzo di reato è devastazione e saccheggio, ma quando mai? Certo, assolutamente, no, guarda, in Spagna, esattamente come in Italia, essendo che siamo passati attraverso le esperienze di dittature fasciste, purtroppo in entrambi i paesi sono rimasti diversi segni di quelle esperienze, con il fatto che mentre da noi è finita nel 45 ed è finita in Piazzale Loreto, da loro è finita nel 78 ed è finita con una transizione con una serie di accordi, diciamo, tra il regime precedente e il regime successivo, e proprio all'interno di questi accordi c'era anche la tutela della magistratura sostanzialmente franchista. Ma oltre a questo discorso chiaramente di un legame con il vecchio fascismo, si può anche ragionare su quello che sta avvenendo a livello europeo in tanti paesi proprio su queste nuove forme di repressione. Voglio dire, in Spagna, prima nell'intervento non ne ho parlato, negli ultimi anni tantissime persone sono state condannate per via di quella che viene definita ley Mordaza. La ley Mordaza è una legge che è stata promossa da Rajoy, del Partito Popolare, nel 2015, ed è una legge che praticamente impedisce di fare riprese durante le manifestazioni, di dire tutta una serie di cose, proprio una legge fatta, come dire, contro i movimenti sostanzialmente. E in qualche modo quello che sta succedendo anche in Francia nell'ultimo anno con la loi de sécurité globale, si torna sempre un po' in quella direzione, cioè il fatto che abbiamo strumenti digitali, tecnologici, che teoricamente ci potrebbero permettere anche di magari fare riprese di un momento in cui lo Stato magari non vuole farcelo vedere, e quindi in qualche modo lo Stato decide che da adesso in avanti non si possono più neanche usare i cellulari per fare, come dire, magari una ripresa di quello che sta avvenendo. Quindi questo era un po' per contestualizzare anche a livello europeo. Per quanto riguarda la questione di Azel, è particolarmente, come dire, aggravata dal fatto che lui è anche catalano, è anche, come dire, indipendentista, e sappiamo benissimo che, come dire, nel paese spagnolo è in corso, diciamo, una guerra a bassa intensità tra il governo centrale di Madrid e il mondo indipendentista catalano, anche se in questo caso Pablo Azel di fatto non è stato arrestato per questioni legate direttamente all'indipendentismo, ma proprio per aver cantato la corruzione del re e la corruzione delle forze dell'ordine. Tra l'altro, per concludere, ricordo che l'ex re di Spagna Juan Carlos è scappato negli Emirati Arabi proprio per evitare potenziali processi di corruzione. Che bassezza, che morale veramente allucinante, oh. Se fai schifo, vabbè, Sì, no, fa abbastanza impressione il fatto che questo abbia cantato dicendo che il re è un corrotto e sta finendo in prigione, invece il re è un corrotto in questo momento se la sta spassando in una bellissima villa negli Emirati Arabi. Ah, ma allora lo processeranno per falso, perché nella canzone dice il falso perché non l'hanno processato, la canzone doveva dire ha rubato ma è scappato, così diceva la verità, e era posto così. Ma comunque, cioè, sorprendente, noi ci ricordiamo benissimo tra mille virgolette del nostro passato, nel senso che magari chi ha avuto la fortuna di studiare o la capacità di avere sviluppare un senso critico ci ha pensato bene, cioè ci pensa bene alla storia d'Italia, 45, è successo il fascismo, chi non lo fa, la tensione, e chi non lo fa se ne frega. Però la cosa assurda è che effettivamente, cioè, se guardi in giro per l'Europa, non è che abbiano proprio fatto la pace con il proprio passato, perché guarda appunto la Spagna, cioè il fascismo è finito negli anni 70 per la Spagna, cioè effettivamente è un'altra situazione completamente diversa, con delle fratture all'interno della società imponenti e con ancora il re. Cioè, nel fatto che nel 2021 ci sono ancora dei re, questa cosa mi sorprende sempre un sacco. Ma scusa, a questo punto è una curiosità proprio mia, a te, Linoi, che ne sai abbastanza, mi sa di Spagna. Ma a questo punto, dato che per me Spagna musica uguale Scapè, perché sono un militante un po' datato, cioè, loro quanti cazzo ne hanno presi di denunce e arresti, eccetera? Non è che ci andavano leggeri nemmeno loro. Guarda, in questi giorni hanno coinvolto anche loro, perché essendo che hanno chiesto a tutti gli artisti di prendere posizione, è stato chiesto anche agli Scapè di prendere posizione rispetto a Pablo Hasél, proprio oggi basta andare a vedere sul loro account di Twitter, hanno dichiarato chiaramente solidarietà nei confronti di questo artista e tutta la loro repulsione nei confronti di questo atto repressivo. Sa quante ne avranno prese di denunce nel tempo? Abbastanza, esatto, un folto numero. Va bene, allora, grazie. Esatto, grazie mille di questo aggiornamento. Dan, vuoi chiedere qualcosa a Linoi o vuoi soltanto salutarlo? Soltanto salutarlo, grazie Linoi. Grazie Linoi. A presto, un saluto a tutti. Mandiamo anche un pezzo. Ciao, ciao. Se vuoi tornare ad ascoltare la radio, mandiamo un pezzo di Pablo che abbiamo recuperato proprio per la puntata. Grazie mille, caro. Ci sentiremo presto. È andato già. Ah, è andato. Che ragazzo gentile. E noi ci ascoltiamo il pezzo. Blanca. Blanca. Allora, io non c'avevo il microfono, ma una parola, non so che cosa dire a proposito di questa cosa assurda, cioè non credo ci sia molto da dire, da esplicitare, nel sicuramente senso che solidarietà. È talmente palese che fanno schifo. No, è più che altro perplessità su come possa essere possibile che accada una cosa del genere all'interno di quella che dovrebbe in teoria essere una democrazia. Cosa che poi effettivamente non è. Ed è ovvio che non lo sia, tuttavia desta comunque un certo stupore ogni volta che accade una cosa del genere. Le democrazie di sinistra hanno dove? Boh, evidentemente sì. Evidentemente sì. Segno distintivo. Esatto. Veramente. Bene, mandiamo il pezzo e ci sentiamo fra pochissimo. Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista. Que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre al oprimido amo, odio reinado opresor. Ci arrivano degli inviti su Facebook, un bel evento Libertà per Pablo che sarà sabato alle 16 in Piazza del Duomo, quindi i nostri compagni e le nostre compagne sono già sul pezzissimo, ci hanno mandato questo evento, li ringraziamo e ci godiamo il brano. La giustizia os desquicia come a Letizia al Botox, come piedras contra Vox sonaraste rap, jodete pide mi libertà hasta Sean Manel. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan. La barbarie del poder de la cruel oligarquía, que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Voy a hablar de igualdad en las colas del hambre. Sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá. De honor conocerá sudor al currar de verdad. Repudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista no somos el domesticado iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. La brutalidad policial no tendrá complicidad ni rapeos. Se multiplica en la calle el rechazo al trono rancio. Cuando el miedo os falle, ya llegará palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado, la mayoría no nos sirve. No sufriréis, os guste o no, y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo contó. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Muerte al régimen que dejan los huesos. A la justicia teniéndonos presos. Pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera. Las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo. Somos capaces de parar lo que hacen, créelo. Presos. Distraído pa' che non esplode. Bentornati e bentornate, ringraziamo Pablo e gli inviamo tantissima solidarietà. Ringraziamo anche Linoi per l'ultima telefonata che abbiamo fatto con lui. E iniziamo un po' a introdurre quella che sarà la prossima telefonata senza ancora chiamarlo, e parlando un po' di quelle che secondo noi sono le abitudini che queste grandi corporation hanno su di noi, gli effetti che ci sono effettivamente poi su quelli che sono il nostro uso quotidiano. Molto spesso, secondo me, vanno a toccare quello che è la parte più goliardica dell'individuo, oppure la parte più di divertimento, la musica, il cinema, gli interessi. Come vi ricorderete, Facebook, quando vi siete iscritti, vi ha chiesto quali sono i vostri interessi. Magari voi avrete bypassato sicuramente questa informazione o non avrete dato queste informazioni, però il vostro uso e il vostro utilizzo sui siti viene registrato, e tutte queste registrazioni poi comportano delle serie di offerte. Queste offerte possono essere sicuramente di prodotti da acquistare, ma anche multimediali da ascoltare e da vedere. Prima parlavamo fuori onda con Dan, ci sono dei motivi per cui YouTube ti consiglia un brano piuttosto che un altro dopo l'ascolto del brano che stai ascoltando. Ci sono dei motivi per cui nelle sponsorizzazioni di Facebook o di altri social hai determinati prodotti e non altri. Il film emblematico che a me sinceramente non è piaciuto, The Social Dilemma, di cui si è tanto parlato in questi ultimi mesi, fa vedere questi piccoli esserini che da qualche parte nel mondo con dei computer governano gli interessi di questa persona che, ignara di tutto, si ritrova le pubblicità sul telefono o i contenuti. Posso dire una cosa di Social Dilemma? Devi. Social Dilemma, inizialmente sono stato stupito, come credo un po' tutti, che questo argomento sia stato portato in forma documentaristica su una piattaforma così pervasiva e popolare come Netflix, addirittura prodotto da Netflix. Addirittura prodotto. La sorpresa è durata poco, perché mi sono ricordato che Netflix e Facebook sono concorrenti per quello che riguarda la gestione del tempo libero e anche per quello che riguarda la formazione del consenso, ma qui si allarga un attimino il discorso. E dunque Netflix, diretta concorrente di Facebook, non è tanto strano che faccia un documentario mostrando le falle del suo diretto concorrente. Le falle e le frodi. Le falle e le frodi. C'è anche da aggiungere che tutte le persone che hanno parlato dentro il documentario, a parte forse la Shoshana Zuboff, che era la signora col ciuffo alla Montalcini, che ha detto un paio di cose abbastanza fulminanti, erano tutti dei miliardari a bordo piscina. Esattamente. Quali dicevano: ah, ci dispiace moltissimo di aver creato. Noi non pensavamo minimamente di fare questa cosa. Ci pagavano, scusateci. E non poco. Ma la parte più interessante del documentario, però, lo trovo verso la fine, quando a microfoni spenti fanno vedere un paio di cose dove gli intervistati dicono: vabbè, ma come sono andato? L'ho messa giù troppo dura, sono stato distopico. È vero. E dicono: no, ma tu sei stato anche un po' ottimista. E questo che fa: beh, meno male, perché in realtà io la penso veramente male. e quando gli domandano invece come vi comportate nel personale, nell'intimo, nel familiare, e tutti queste persone che hanno fabbricato questi social network dicono che loro questi social non li usano. Figli. Sì. Indicativo parecchio. Se il pasticcere non mangia il suo dolce, due domande. Motivo ci sarà. Ma veramente, Dan, è difficile parlare con te, perché in tre minuti rasoio. Poi cosa devi dire? Cioè, cosa fai? Hai ragione. Bruciamo Facebook. Guarda, io sono contento in realtà, perché con la mia solita incompetenza multimediale e tecnologica mi sono dimenticato la password di Facebook e spacco un telefono tipo ogni 6 mesi, perché facendo più lavori manuali che altro va sempre a finire che mi cade, mica ci pesta qualcosa contro, per cui nei vari passaggi perdo l'utilizzo di Facebook e ci metto veramente 7-8 mesi a trovare la voglia di andare a ripescare la mail, trovare la password, rimettere e quindi la non password, lo usi, e quindi Facebook praticamente ormai basta, è passato. Io cancello il mio account in diretta adesso davanti a tutti. Però farà bene un prima o poi recuperare quell'account se decidi di non usarlo più e chiuderlo, perché altrimenti rimane aperto. Hai ragione. Insaputa. Bisognerebbe anche sottolineare il fatto che rimane aperto anche quando c'è stata la cancellazione. I tuoi dati sono lì dentro, quindi si consiglia, se volete cancellare il vostro account Facebook, prima di svuotarlo, di cancellare manualmente tutti i contenuti che ci sono all'interno e poi di cancellare l'account. Perché altrimenti, se voi cancellerete l'account, rimettendo il vostro, la vostra email e la vostra password, l'account magicamente tornerà allo stadio in cui l'avete lasciato. Se posso, prego, prego. Riferendomi un attimo dall'argomento digitale, ma riferendomi ai documentari che paiono essere conto corrente prodotti da invece quelle che sono compagnie internazionali e estremamente potenti. Accade spesso a me personalmente di trovarmi a guardare film, documentari, insomma varie forme di espressione tra virgolette culturale digitale, che mi paiono strani su piattaforme che in teoria non vorrebbero che si parlasse di tali argomenti. Quindi mi faccio la domanda del perché questi argomenti possano venire trattati dalle piattaforme in modo talvolta radicale, o meglio, radicale tra virgolette, comunque moderatamente. Forse la risposta che mi do è che trattando questi argomenti in modo tra virgolette moderato, meglio, non come li trattiamo noi, vogliono far sì che le persone che pensano a questi argomenti ci pensino nella loro maniera moderata e non in una maniera che potrebbe essere contro loro stessi. Certamente. È possibile che si tratti anche di radical wash, cioè della il termine me lo sono inventato adesso, ma cioè del va bene, insomma, ci siamo capiti. Assolutamente sì, però è interessante anche il discorso che hai fatto prima, ovvero che Netflix fa concorrenza a Facebook in quanto intrattenimento, quindi da un certo punto di vista ha senso che Netflix produca un documentario che va contro quello che è il suo acerrimo nemico. Bene. Comunque è sempre bellissimo vedere come quando ci sono i milioni di mezzo nessuno è rivoluzionario. No. Quando ci sono un sacco di soldi dietro, se guardi bene bene bene, alla fine nessuno lo fa per niente, no? Quando appunto, o meglio, quando ci sono dei soggetti che ogni giorno macinano milioni di introiti, profitti ricavati e hanno affari, quasi mai fanno le cose così, perché si deve, perché ha senso. Vabbè, e questo mi fa ripensare a quei life coach che consigliavano alle star hollywoodiane di fare della beneficenza, perché li attaccava alla realtà, invece sì, l'immagine che tu dai, ovviamente indipendenze, sì, multiple, ma fai della beneficenza, così continui a capire che esiste un mondo oltre a te, eccetera, e poi fai finta anche di essere una persona generosa, ma quello era anche meno importante. Ma il divo hollywoodiano è il prototipo dell'homo digitalis di Bin Chulan, è colui che si è creato una seconda vita che è soltanto mediale, che è soltanto sui rotocalchi, poi all'esterno di quello non sai cosa succede. E dall'altro, tu sai Vita, Morte e Miracoli di Leonardo DiCaprio, sai che adesso è l'unico colui che parla di ecologia e che ha speso tutto il suo tempo e i suoi soldi, però non sai che persona è realmente, conosci il suo alter ego che è quello che medialmente ti propongono. Ecco, una cosa che Baudrillard, che non abbiamo ancora citato, ha detto, ha detto tempo fa, è che internet donerà visibilità a chiunque, i tuoi 5 minuti di gloria li potrei avere. Prima erano 15 per, esatto, il servizio televisivo, invece non adesso è sì. Quello anche. Ma questa cosa mi fa pensare a una roba che mi ha detto una persona che forse magari ci sta ascoltando, cioè che talvolta le star hollywoodiane vanno in sbattimento, soprattutto le modelle, perché vanno in competizione con la propria immagine di sé photoshoppata. Quello... Perché si vedono ovunque, ma con i dettagli photoshoppati, dicono: ma io non sono così, vorrei essere così, e quindi ci vanno dentro di testa, perché anche loro si sentono brutte. Leggo solo il retro di copertina di un tomo molto bello edito da Mimesi su Harun Farocchi, che è un autore che abbiamo citato ma di cui non abbiamo avuto tempo di parlare, che è molto interessante perché cita queste parole. Dice: la realtà potrebbe non essere più il criterio per l'immagine imperfetta, piuttosto l'immagine virtuale diventerà il criterio per una realtà imperfetta. Quindi per come stiamo andando adesso è esattamente quello di cui hai parlato poco fa, ovvero una situazione per cui tu non riconosci più la realtà se non vai passandola attraverso una realtà virtuale. Quella che per te è la realtà diventerà obsoleta, perché la realtà virtuale sarà in 16K, super definita. Ready Player One, cioè alla fine il film lo fanno nel videogame, nella realtà è tutto grigio, in toni grigio di marrone, tutto tristissimo, noiosissimo. Bene, c'è una telefonata da fare? Non ancora, no? non ancora. La domanda che mi ponevo, prego, però, è che la porrei anche a voi, nel senso che non ho una risposta a questa domanda, è proprio una domanda, se no non sarebbe una domanda. Ed è come siamo probabilmente in prossimità di vedere come si manifesteranno le forme di fascismo buttate sul digitale o sulla comunicazione mediata con il tramite tecnologico. Mi domandavo se possiamo scorgerne già qualche elemento, magari in crescita, non già completamente finito. Nuce. Esatto. Io la sensazione ce l'ho, ma non sono stato ancora bene in grado di definirlo, ce l'ho ogni volta che chiamo qualche entità al numero di telefono e mi trovo a parlare con la macchina. Certo. Premi 1, se, premi 2, se, adesso ti dico due cose, un messaggetto, poi hai premuto 8, no, per la privacy invece premi 1, altrimenti aggancia senza passare dal via. Mi sento molto oppresso ogni tanto quando ho questa esperienza e mi domando se non andrà, se stia nascendo. Molto probabilmente sì, secondo me il discorso è sui servizi. Nel momento in cui una persona ha necessità, perché ci si ritrova, perché è indotta o perché ne ha bisogno e sente il bisogno di avere determinati servizi, è soggetto a scontrarsi con quelle che sono le regole di questi servizi, perché questi servizi non sono di certo regolamentati da te, ma sono regolamentati da totalmente altre entità. Per come sta andando la cosa, non penso che ci sia né una rivolta digitale né una rivolta di piazza, perché le persone bramano questi servizi, li vogliono, la domanda, malgrado il Covid, rimane sempre più alta, e anzi in questo periodo, in questo caso mi riferisco ai servizi ovviamente di spedizione, sono sempre più agguerrite. Io mi sono trovato a parlare con più macchine in questo periodo per ricevere cose dalle entità di spedizione pacchi, che in questo momento sono più in crisi che mai, e ho parlato con un sacco di macchine, però era una necessità, dovevo ricevere dei pacchi che ho ordinato, quindi mi ritrovavo addirittura adesso non c'è più il bot con il tasto alfanumerico, ma c'è la risposta che tu puoi dare al bot, e il bot vocalizza la tua voce e dice tu devi dire sì, no al telefono. Sai cos'è che mi preoccupa? Io adesso parlo, ditemi se parlo a voce troppo alto, ho visto troppi messaggi che dicevano vai. Alza la voce. Esatto. Io sono un po' preoccupato a un certo punto di magari essere cancellato, visto che tutta la mia identità si è trasferita nel numero telefonico, e quando chiamo queste entità, loro dal numero telefonico sanno che sono io. Se hanno un dubbio mi mandano un messaggino con un codice a 4 cifre che io inserirò nell'apposita casellina per dimostrare che sei di tu. Essere in possesso della device che fa sì che dica, che dice effettivamente che io sono io. Il giorno che dovessi essergli antipatico o che cambi numero No, ma io più preoccupato sul il giorno che decidessero che gli sono antipatico e decidono che quel numero lì, sai com'è, la sanità non mi risponde più. Oppure semplicemente mi rendono la vita difficile. Cose che magari nella vita reale abbiamo anche percezione del fatto che queste cose siano potute esistere o meno, ma nel digitale potrebbero avere una più grande facilità da sì. parte, diciamo, dell'entità di potere nell'esercitarle, e un'assoluta inermità da parte fuori. Sì, questa cosa mi fa pensare alla letteratura, e mi è rimasto una delle poche cose che mi è rimaste nel cervello della letteratura italiana fatta al liceo, era la patente di Pirandello o di Goldoni. Non lo so, adesso magari qualcuno che è in chat ci potrà scrivere se è Pirandello o Goldoni, ma sta di fatto che il soggetto di questa commedia italiana del Novecento, se non sbaglio, Pirandello, perfetto, è che poi che parla molto spesso della questione dell'identità, 10, 100.000, uno nessuno 100.000, mm-hmm. Usa una roba del genere, grazie prof, ho preso 8, no non è vero, detto questo, beh, lui perde il certificato di morte, e quindi non è più morto, non è più morto. Ma è vivo, e lui però per dimostrare di essere vivo deve dimostrare che cioè, ha la patente per essere vivo, cioè ci vuole la patente, il documento, sennò non sei vivo. Stessa cosa, cioè va a finire che è iniziato con i documenti 200 anni fa, e oggi stesso il problema è che io sono vivo, esisto, posso avere un servizio se ho la, il telefono, il mio numero di telefono e, come diceva giustamente prima Blallo, la connessione dati. Perché prova a non avere la connessione dati e vedere se ti funziona qualcosa quando devi mandare la PEC, la pasta certificata, devi ricevere la roba del codice dall'INPS e inserirlo dall'altra parte. Cioè, si dà per scontato che tu hai la corrente elettrica, la, la possibilità di avere internet, ma soprattutto hai pagato un servizio in abbonamento. Cioè, a questo punto, onestamente, forse una forma enorme di resistenza sarebbe dire La connessione wifi gratis per tutti con una compagnia di stato che io non pago, o esattamente al massimo pago con le tasse, perché questo è un servizio privata che mi deve essere garantito, visto che i servizi si sono spostati tutti su quel servizio lì. Cos'è? Non mi operate più alla cistifellea perché non ho ricevuto il codicino tramite wifi, perché non avevo wifi? Ma sparatevi in bocca. E in realtà il discorso reale che ha fatto Linoi prima è fondamentale. Quando io porto fuori il cane non posso più pensarmi di essere senza dispositivo, quindi la perdita del dispositivo o la cancellazione del proprio account. Io ho letto di scene di pazzia sfrenata nel momento in cui venivano cancellati degli account Instagram, perché delle persone ci mangiavano con quegli account Instagram. Quindi si sta spostando tutto effettivamente lì. La domanda di Dan è: nel momento in cui io sto antipatico a queste corporation, cosa succede? Temo di essere nei guai. Che vuoi essere di guai? Vuoi chiamare già subito? O mandiamo. Scusate, parlo senza microfono come un cretino. Ci ha appena comunicato di essere disponibile. Se possiamo dire a lui che abbiamo 3 minuti, 4 minuti di brano e poi lo chiamiamo, secondo me rilassiamo chi ci ascolta e ci rilassiamo anche noi. Vogliamo mettere un brano musicale? Arrivo subito. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Blanca, volevi dire qualcosa? Ti abbiamo interrotto in maniera orrenda? No, no, in realtà il mio commento era più un aneddoto su cose che dicevamo prima, quindi si può anche bypassare. L'aneddoto divertente è il sull'assistenza digitale di alcuni servizi in chiamata. Adesso le poste hanno un nuovo servizio, più che un nuovo servizio hanno messo un assistente digitale che ti risponde in base a ciò che tu dici, solo che è digitale, non è un essere umano. E non essendo un essere umano, la metà delle cose che tu le devi dire, dal momento che probabilmente sono dei dati tipo codice fiscale lunghi 20 cifre, non le comprenderà mai. E per di più le poste hanno smesso di passare l'assistente umano, cosa che significa che per me, per esempio, sto cercando di recuperare la password di una carta di credito da un mese e non ci sono ancora riuscita. Meraviglia. Quindi sì, è un disastro. Rimani povera, Blanca è l'unica soluzione. Ma così, senza carta di credito, solo contanti, al massimo rapine. Musica, ci sentiamo fra pochissimo. No. E bentornati. Bentornate. Siamo sempre su ZM. Siamo sempre nella prima puntata di una serie di 8 che cerca di riattualizzare l'antifascismo. Oggi parliamo di fascismo e dispositivi di controllo. Abbiamo al telefono con noi Vecna. Tra l'altro, vediamo che ci senta, che c'è sempre un piccolo problema tecnico. Ciao Vecna. Buonasera. Ciao. Vi sento benissimo. Un saluto alle compagne e compagni che si sentono. Ciao, ciao. Allora, io sono Guglielmo. Io sono Lorenzo, benvenuto. Qui al nostro fianco invece c'è Blanca. Ciao. Blanca, adesso noi facciamo come al solito gli spifferoni e la spia è stato Dana a chiamarti, è stata una sua idea, è tutta colpa sua. Ha fatto benissimo. Che bello, bene, che bello bene. Sentire per una volta, perché noi di solito, io e Lorenzo, facciamo una trasmissione in cui chiamiamo le persone senza avvisarle e non sono così contente di essere chiamate. Invece, se chiama Dan, le persone sono contente, questo è indicativo. Facciamoci del tipo due domande, Guglielmo. Il tipo di persone che siamo noi e il tipo di persona che è Dan. Va bene così. Allora, Dan ci ha detto che tu qualcosina di informatica ne sai, giusto? Qualcosina, ne parli ogni tanto, giusto? Sì, ma voglio andare subito al dunque. Va bene, allora, attenzione, andiamo al dunque. Io ce l'ho la domanda, o vuoi fargliela tu, Lorenzo? Vai. Vado io. Allora, c'è sempre qualcuno, Dan, ci ha spifferato che tu stai lavorando sul funzionamento, sul tracciamento delle piattaforme proprietarie. Cioè, sì, si dice così. Cioè, lo spiego per magari le persone ignoranti come me, come fa YouTube a suggerirti il video dopo, giusto? C'è un team che lavora con me che lo fa. E sì, siamo molto fieri di questo. È un meccanismo che ci permette di commentare in modo tangibile, pratico, riproducibile come le piattaforme si comportano. Però vorrei prendere il discorso facendo un attimo un passo indietro. Prego. Ispirandomi un attimo a uno ricercatore che si chiama Dan McKillian, che ha scritto un post che parla proprio di Artificial Intelligence and Antifasci. Ah. E è emblematico nel parlare un attimo nella trasmissione di oggi, perché si sta concentrando sulle piattaforme e su come questo sistema di controllo, sia passivo che attivo, ha influenza. Ma riflettendo su l'artificial intelligence, dobbiamo pensare che è un sistema che cerca di migliorare come la società viene organizzata, come una piccola pratica o un'azienda o un sistema di trasporti migliora i cambi. Per misurare cos'è un miglioramento, per raccontare di avere un successo, deve misurare la società, deve sapere fino al minimo dettaglio come stanno andando le cose. E questo atteggiamento è quello che è intrinsecamente fascista, secondo Dan Millikan, perché da un lato porta a decidere quali sono i parametri di successo. E questa è la chiave più forte per imporre che cosa ha ragione e cosa ha torto, cosa deve essere incentivato, cosa no. Se sono il numero di follower ad avere importanza, sto incentivando certi tipi di comportamenti, lontani magari dalla qualità dei contenuti. Se fosse la velocità del percorso, sto magari andando a sovraccaricare una strada del 1600 di Porfido, in cui ci mando rider e Uber. Quindi l'effetto è multidimensionale, e tutto sta al fatto che sono delle aziende che decidono quali sono queste metriche. Non è un sistema che tiene conto delle necessità dei cittadini o degli utenti o delle persone, appunto, che hanno un impatto diretto. E dopo questo grande discorso tutto gonfiato, facciamoci pure delle domande. Beh, una delle cose che si diceva una volta era che uno dei modi per definire il fascismo era anche l'interesse privato nella cosa pubblica, difeso chiaramente o implementato con la forza, e questa sembra appartenere all'affermazione di De Kinsley, che non so anche. Sì, però qui vedo tanto l'aspetto meritocratico, la menzogna che la meritocrazia si può avere proporzionalmente a quanto una persona se lo meriti. In questo caso vedi che dipende da come la tecnologia decide come si misura il successo, e come questo invece dipende da strutture di potere già esistenti. Vabbè, comunque. No, guarda, io in realtà, scusami Vecna se ti interrompo, perché in realtà il discorso che facevi mi fa venire in mente alcuni degli studi che ho fatto, che io ci ho studiato più che altro economia nella mia vita, e quando si parla del fatto che il PIL è l'unico elemento, l'unico dato che si deve valutare per valutare lo stato economico di una nazione, quindi il benessere di una nazione, per cui tu dici, ah no, ma la Cina è retrograda perché ha ancora un PIL bassissimo, un decimo del PIL degli Stati Uniti. Quest'anno invece stiamo bene perché abbiamo un PIL altissimo, oppure oddio abbiamo perso 8 punti percentuali di PIL, stiamo in regressione economica, oppure Cuba è un'isola di pezzenti perché ha un PIL bassissimo. Cioè questa è lo stesso identico discorso, è in base a cosa si definisce veramente il livello di una società, in base alla quantità, perché poi il PIL è il valore di tutte le merci prodotte in un anno, che può essere altissimo o bassissimo, la vendita può andare, il guadagno derivato dalla vendita di questi beni può andare tutto nelle tasche di alcuni di alcune o nelle tasche di tutti e di tutte, oppure posso avere pochi medici, ma tanti medici, e tutte queste cose non vengono assolutamente considerate dal PIL. È la stessa, quello stesso discorso che si faceva appunto riguardo a quali parametri definiscono il successo di una società. Per cui sì, cioè effettivamente si può pensare benissimo che il fascismo sia già nei caratteri con cui si vuole definire il successo di una società, e per cui sviluppare solo quelli. Per cui se il PIL è altissimo, perfetto, poi scopri che un paese praticamente è abitato solo da Facebook, nel senso che c'è la sede legale di Facebook ed è un atollo di 5 persone in cui 4 muoiono di fame e uno è Mark Zuckerberg, e forse quella nazione non è così avanzata come il PIL vorrebbe raccontare. Vabbè, fine, mi è venuto in mente questo flash. Già, è una metrica imposta che subiamo come molte altre. Va bene, a questo punto allora se volevi fare il passo invece, cioè di tornare sulla domanda che ti facevo, perché in realtà c'è un filo di fascismo anche laddove mi vuoi imporre la prossima cosa da ascoltare. O pensi di sapere quali sono i miei gusti a seconda di quella che è la mia navigazione sul web? Sì, questo aspetto di controllo, se vuoi, non è solamente controllo passivo, si basa sul controllo passivo che è quello descritto anche prima, ma in più vuole restringerci le possibilità. Restringere le possibilità giustificandole come un scegliamo nel tuo interesse. C'è stata una pubblicità che veniva appesa alle fermate dei bus a Berlino, di Facebook, in cui queste persone con la faccia sconcertata guardavano la telecamera e c'era scritto: ma com'è possibile che l'algoritmo di Facebook mi conosca così bene, sia così bravo? Dicendo: per te il tempo con noi è ben speso. Cioè, agghiacciante. Già, ma questa era una risposta che Facebook aveva dato dopo le prime critiche che erano nate a seguito del fatto che i contenuti politici sfruttassero fenomeni di viralità inquinati da botnet o dalla promozione. E quindi Facebook, per cercare di guadagnare terreno, ha dichiarato che aveva sistemato l'algoritmo, c'era uno di questi contenuti che contava di più potenzialmente uno scoiattolo che moriva nel tuo vicinato rispetto che a quello che succede in Africa. questo qui era proprio la dichiarazione ufficiale di Zuckerberg. Quindi che tristezza, la verità, eh? Quella famosa storia per cui la principale ricerca su internet sono i gattini, no? le principali immagini che girano i gattini, non la gay che sgancia la bomba atomica, non la foto della terra, non i mari inquinati, nemmeno l'ultima vicenda di Trump, che voglio dire, magari comunque nel leitmotiv della vita di molte, no, i gattini, il cancro, no, siamo noi, insomma, va a finire. Scusa, un momento di sconforto. L'effetto del act local, think global, per loro l'opposto. Esatto. geniale. Un'altra cosa di cui volevo riflettere è che l'attivismo, volendo, non ha presidiato i social network. Se riflettiamo su Bilallo, che aveva detto nonostante non ci sia l'impeachment per Trump, il Dana Vita di Twitter forse è peggio. Cioè, ricordiamoci che abbiamo dato noi il potere a queste piattaforme perché le abbiamo dato massacrati. E il fatto che l'hacking italiano, ma anche internazionale, un po' l'abbia visto snobbandole e non presidiandole, ha causato che ora anche i fenomeni di resistenza sono più complessi. La risposta della generazione di hacker degli anni 2000, se vuoi, è stata quella di dire non dobbiamo neanche toccarle queste piattaforme, perché più le tocchi, più gli dai dati, più gli dai potere. Vero. E l'unico modo che hai è farti le tue, in cui puoi mettere le tue politiche, che è vero, ma abbiamo subito la massa critica. E quindi ora siamo parte di una società che tracolla anche a causa del fatto che una grandissima percentuale di persone non può uscirne. E che invece è tecnicamente più skillato, aveva magari modo di organizzare soluzioni individuali o collettive per una limitata cerchia, ma questo non era al passo con il conflitto. Quindi tu dici che non siamo più in tempo? No, dico che abbiamo perso degli anni. Quello che stiamo facendo con il progetto Tracking Exposed è appunto sia analizzare passivamente quello che fanno le piattaforme, sia liberare i dati perché puoi renderli accessibili con le tue metriche, ricongiungendosi al fatto che le metriche sono politica, e quindi poter sperimentare nuovi algoritmi, visto che il potere sta nel decidere che cosa ti viene fornito. Se tu ne fossi in controllo, certo, quantomeno potresti provare a vedere se riesci a fare di meglio. È anche un modo per darti responsabilità, anziché darti un sistema smart che sceglie per te. Insomma, in qualche modo sarebbe un sistema più stupido, sotto controllo, rispetto che qualcosa che ha imparato da te e che cerca di ipotizzare quello che dovrebbe piacerti. Molto interessante, però noi ci chiediamo, un po' da ignoranti, come fare per contribuire a questa cosa. L'interesse è il primo passo. Vero. Ottimo. Il commitment, la dedizione, è la parte più difficile che viene dopo. Diciamo che ci sono tanti aspetti, alcuni sono software, altri sono più comunicativi. Parliamo di questi visto che siamo in radio. Spiegare ad esempio come persone che vivono vicine, in prossimità, hanno suggerimenti differenti, può essere un bel modo per spiegare cosa sono le filter bubble e perché hanno un impatto sulla nostra vita. Quindi fate così, installate l'estensione youtube.tracking.exposed, questo è il sito, e poi anche facebook.tracking.exposed. Sono estensioni del browser che funzionano per Firefox e Chrome. Queste estensioni fanno una copia passiva di quello che appare di pubblico sul newsfeed o suggerito di fianco a un video su YouTube. Farvi una copia è utile per avere, per prima cosa, memoria di quello che ha dato la piattaforma in un momento nel tempo che mai si ripeterà. Quindi avete la testimonianza storica e può essere parte del vostro archivio, è individuale. E per secondo, potete compararlo con quello delle altre persone. E questo inizia a farvi vedere come venite trattati in modo differente. Non sappiamo ancora il perché, ma iniziate almeno a capire la dimensione e la distanza che c'è tra di voi. Ti chiedo scusa, Vecna, cioè praticamente, perché io sono veramente ignorante, con questo strumento noi abbiamo la cronologia di quello che abbiamo emesso noi tramite i nostri social o di quello che viene letto da chi possiede la piattaforma dal nostro profilo. Cioè io vado, mi ascolto il mio musico di, per esempio in questo ultimo periodo ascolto molto techno house, quindi se mi scarico questo tracker sul mio Chrome, lui vedrà che io ho aperto YouTube, ho ascoltato questa traccia e mi dirà: tu hai emesso questi dati, l'orario in cui hai ascoltato questa cosa, quante volte l'hai privilegiato play, quante volte l'hai ascoltato, c'è una roba del genere? Ecco, no, ma okay, grazie per averlo chiesto, perché questo ci viene chiesto molto spesso. Quello che tu ti aspetti, quello che hai descritto, è che noi possiamo sapere i dati che hanno preso, ma non possiamo saperlo, perché i dati che hanno preso si dividono in quattro tipi. Uno è quello che tu dichiari, quindi se sei su Spotify o su YouTube ti sei registrato. L'altro è quello che il sistema vede, quindi quello che tu ascolti. Per terzo c'è quello che ti attribuisce. Siccome tu ascolti molta house, sarai un giovane. Siccome ti colleghi dall'Italia, sarai un giovane italiano. L'altro è quello che viene inferito. Siccome sei un giovane italiano che ascolta la musica tutta la settimana, allora ti interessano gli impianti DJ. Se invece lo ascolti una volta a settimana, magari no. Quindi noi non possiamo sapere che cosa hanno le compagnie di noi, perché gli ultimi due sono quelli che hanno più valore, ma sono segreti. Okay. Mentre gli altri due tu ne puoi avere accesso perché il GDPR ti dà il diritto di avere accesso ai dati che la compagnia tratta di te. Il nostro tool invece guarda quello che la piattaforma ti invia, perché è personalizzato e noi vogliamo analizzare come avviene la personalizzazione, come avviene la polarizzazione o la creazione di bolle. Tu che guardi un video di Covid e hai di fianco i suggerimenti di QAnon, mentre il ricercatore che guarda il stesso video ha di fianco l'OMS, non capisce il problema. Invece hai persone di fianco a te che stanno ricevendo spazzatura suggerita a fianco di tutti che guardano. Certo. L'unico modo che hai per fare un'analisi critica è poter condividere questa versione personalizzata della realtà, perché altrimenti non ne puoi uscire. Allora noi facciamo la copia di questo, così che dopo tu e chi ti attorno possa studiarlo con te. Certo, perché il problema a livello di diffusione delle informazioni è che essenzialmente, così facendo, i motori di ricerca, le varie piattaforme ti chiudono nel farti vedere solo quello che hai già visto, solo quello che tendenzialmente tu hai espressamente detto che ti interessava. Ecco, questo è l'effetto collaterale di un sistema che ti ha studiato e ha pensato che siccome tu hai fatto questo, vorrai sempre questo. Comunque c'è una roba di merda, veramente, non perché... cambiare mai. Ma, scusami, Vecna, dicevi? No, l'effetto del non ti fa mai cambiare, eccezione di quando decide che qualcosa ti possa interessare per prossimità, per viralità, per delle logiche sempre sue. Che è un po' lo stesso principio di Facebook, della home page di Facebook, delle cose che vedi sulla bacheca. Sì, esatto. Ho parlato di YouTube e Facebook in modo quasi intercambiabile in questi ultimi 10 minuti, perché cioè, volevo commentare il fenomeno. Poi il tool funziona sulla piattaforma che hai installato. Comunque sta cosa qua fa pensare che c'è il nuovo rilievo, la nuova frontiera del fascismo, la repressione tecnologica è l'abolizione della curiosità. Cioè tu non sei più curioso, anche dell'errore. Cioè la questione è che praticamente mi è venuta questa roba la curiosità, perché a me è sempre piaciuto in generale di me stesso essere molto curioso, per cui andare a vedere anche semplicemente che cazzo succede se faccio così e così, ma sta roba cos'è. Quindi cioè la figata di avere il telefono in tasca per me è ancora, dato che io evidentemente ero di un altro secolo ma sono nato nel secolo sbagliato, cioè l'ho tratto proprio come l'enciclopedia, tipo sono inviato al dettaglio, ma che cazzo è questo? Apri Wikipedia, un pittore che ha fatto 4 punti nelle Fiandre, vabbè che se ne frega, me lo dimentico subito, ma il gusto semplicemente di avere una risposta a tutte le domande che ho, nozionistiche idiotissime, è un gusto fantastico. Invece sta cosa per cui non è a random e non mi stai nemmeno dando tutto quello che c'è di questo artista, mettiamo che fa techno house, perché hai capito che mi interessa, quindi mi fai scoprire tutto quello che ha fatto, che magari è un procedimento magari più stupido e pedante, però voglio dire è uno dei tanti che uno può avere per scoprire di più del mondo, Lui no, cioè ti pubblica delle robe che hai già visto, che praticamente sono esattamente agganciate a quello che, già, cioè, che hai già sperimentato, chiudendoti appunto nella tua bollina, e non è vero che scopri il mondo, scopri quella zona che loro hanno deciso che ti poteva interessare per venderti il prodotto alla fine del video, per venderti la serata, il biglietto per il concerto di quell'artista. Tu dici che giustamente a una persona come te questo andazzo potrebbe stancare alla lunga, perché mi riproponi sempre la stessa salsa. Ma è proprio fastidio, cose. Infatti dopo un po' lo cambio io, a parte il fatto che magari per me è lo stesso. Chi profila il mio YouTube diventa scemo, perché un giorno guardo le sigle dei cartoni animati, il giorno dopo la techno house, poi torno al reggae, poi mi piaceva tanto quel video dei Metallica, e quindi dici ma che cazzo è questo, è psicopatico, più o meno sì. Però vabbè, no, in generale cioè monopolio della curiosità. Cioè, non so come dire, nemmeno di scoprire il mondo sono libero, perché mi dovete appioppare qualcosa, quindi decidete il cazzo che ascolto. Io non vedo l'ora di andare a casa a scaricare e installare i tool che ci ha suggerito Vecna adesso al telefono, perché voglio vedere come funziona. Mettiamolo anche qua, esatto. Ma non lo so però, che su Bunsen Lab funzionerà? Beh, è Mozilla, è un plugin di Mozilla, quindi... Certo, state usando Firefox, vedo. Esatto, quindi ci siamo. E allora funzionerà. Da quel browser voi mettete su canzoni che durano per un po' di minuti? Cioè da lì fate DJ? No, in realtà usiamo un altro software per mandare la radio in diretta e anche le canzoni. Il browser lo utilizziamo soltanto per comunicare via chat. Dunque, due cose prima di chiudere la chiamata. La prima è che ci ascoltano Giulia e Salvo. Ciao, oh, Giulia, ciao! Ciao Salvo! Quindi ci sono due persone che ci ascoltano davvero, è incredibile! È un successo clamoroso. E nel caso voleste aiuto, supporto o fare follow up su questi tool, loro sanno benissimo magari di partecipare. E l'altro... che avete presente la statistica per la quale il 70% dei video su YouTube è suddiviso dall'algoritmo? Sì. O il tempo occupato? Sì, ecco, questo numero, a parte il fatto che a volte cambia tra 70% dei video o 70% del tempo è dovuto a, dall'altro io lo critico perché è una percentuale che ti fa alla fine credere e capire che l'algoritmo ce l'abbia fatta. Ma se ci pensi un attimo, i tre dispositivi che riproducono roba su YouTube possono essere, approssimando, cellulari in cui ogni secondo di batteria e di dati conta, in cui ti scalda in mano, quindi sai con chiarezza quello che stai producendo. Poi computer desktop a casa o laptop aperto, stai vedendo la roba mentre sei seduto, te l'ascolti, se la roba non ti interessa la fermi, se sei a lavare i piatti fa play next. Oppure installazioni in cui c'è YouTube che parte la mattina, fa musica tutto il giorno e continua a riprodurre la stessa playlist. Ora, se tu mi dai una statistica tipo 70% è fatto del traffico è generato dall'algoritmo, ma non mi spieghi i diversi casi, che cosa significa? È una statistica così approssimata che è stando YouTube. Riuscire a calcolare delle statistiche indipendenti è un modo per fare una critica cambiando un po' la narrativa che vogliono dare le compagnie, ed è quello che con Tracking Exposed si può fare, perché inizia a vedere collettivamente quello che stanno facendo queste compagnie e dare metriche nuove. A questo riguardo noi analizziamo anche Pornhub. Ah. E Pornhub ha sempre rilasciato i Pornhub Insights, quindi le statistiche annuali, e ricerche. Di solito si aveva una copertura gratuita da parte di tutti i media della nazione che ne parlavano perché era divertente, parlava di un tabù. Aveva però, offerto i propri server all'INPS per reggere le domande del reddito, ecco, di cittadinanza. Social media manager giustamente sa cogliere le sue occasioni. Esatto. Fatto sta che questi Pornhub Insights era un modo loro per fare marketing mascherato da open data. E riuscire a fare analisi critiche è quello che può riuscire a darci anche possibilità di spiegare il problema della loro influenza al di fuori di chi si interessa di antifascismo e ne parla il giorno in memoria di Dax. Per questo la parte di comunicazione è molto importante. Se sentite che volete fare delle intermediarie tra la tecnologia e la socialità, sperimentare nuovi modi per spiegare le filter bubble, la profilazione, come liberare i dati. È proprio uno sforzo contro il quale non ci scontriamo, e se volete aiutarci vi ascoltiamo. Allora ci potremmo proporre perché siamo, cioè io sapete sono un grandissimo idiota, per cui se l'ho capito io lo capisce chiunque, quindi mi candido a essere la vostra cavia, spiegatemi e io spiegherò. In realtà rincariamo la dose dicendo che noi come radio siamo sempre aperti a nuovi programmi, quindi se vi interessa fare radio via Sant'Abbondio 4, zona periferica via parte la Lenza, ma come viaggio, noi siamo qua pronti a spiegarvi qualsiasi cosa di regia e poi un bel dai che a bocca un bel programmino su questi temi, ovviamente anche l'invito rivolto anche ad Anne, tutta Unit ormai da un anno a questa parte. Dai. Sarebbe estremamente un piacere, ovviamente con tutte le tempistiche. Esatto, facciamo un programma, facciamolo. Però sarebbe bello poter avere un approfondimento a cadenza mensile magari in cui parlare di queste cose. Ci farebbe piacere, altrimenti verrete chiamati nel programma più molesto che abbiamo di radio, che è Zona Rossa, in onda tutti i mercoledì sera quando ci ricordiamo. Ovviamente... Poi facciamolo in maniera sobrissima, chiamiamolo tipo We Are Legion, è una roba proprio inquietante, roba di analisi che parlano in due secondi, voci di Metallic, sarebbe figo. Bene, grazie, grazie mille Vecna. Grazie a voi. Ciao Vecna, grazie. Un abbraccio, ciao ciao. Grazie mille, ciao Ne. Beh, senti, cosa facciamo? Facciamo partire una canzonetta e poi i saluti? Facciamo partire una canzonetta e poi i saluti. Io sono veramente molto contento di come è andata questa puntata e adesso facciamo un po' il sunto. Yes. My next guest combined rap, jazz and hip hop to create a whole new sound, performing Cantaloupe from their album Hand on the Torch. This is Us Three. One, two, one, two. Come on, come on. Check it out. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, come yeah. On. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Come yeah. On. Yeah. Oh, yeah. Jazzy, funky, bounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps growing and drips the MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I sure improve as I stay your move. Living for the sight on top of the groove. Swoom, bomb, float like a butterfly. No set of floating, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, lift Fantasia. Yeah, yeah, yeah. Jazz and hip hop, dripping in the dome, it's his own bop. Funk confusion, a fly illusion. Keeps you coasting on the rhythm and cruising. Up, down, round and round, round and round, but nevertheless, you got to get down. Ladies and free from the beast, so unique, you can beat the sweat from the heat. But back to the fact, I'm the Mac, and I know that the way the rhymes from the corner of the stay full, born so that sound. Caught in the groove of the things I found. Man, shook the tour, part of my resort to the infinite height. To the rubble of hardcore. So here we go. Off I take ya. Dip trip, flip and taser. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Hey, yo, fuck off. Dialect of the man in command, come forth with the sounds of the mighty mic master. Climbing on the mic, I'm with the sun under disaster. Cool, cool. Cause mice don't rock like with the rise of battle. Star, I might be scribble, travel on the microphone of babble as I flip the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, words manifest. Feel the vibe from here to Asia. Flip trick, flip Fantasia. Give me more of that horn, please. Oh, yeah. Yeah. Prendiamo anche gli applausi. Questa puntata è stato un successo. Grazie, grazie. Siamo molto contenti. Sì, grazie. Che dire? Beh, Dan ce l'ha la frase, io ce l'ho una frase, Blanca ha una frase, sicuramente. Anch'io. Anche Lorenzo una frase, chiudiamo con una frase, prego. Allora, io i saluti, così poi non devo più salutare, vi ringrazio anche di avermi accolto. Grazie a te. Fascismo è la burocrazia automatizzata. L'ha detto. Vai Blanca, è il tuo turno. Vai Blanca, dici una frase. Se vuoi del tempo per pensare alla frase ti viene dato. Ti è concesso, ma non gigianeggiare perché sarà poco. Io mi spiace, mi autociterò, ma secondo me il fascismo è il controllo della curiosità. È il controllo della curiosità. Prego Lorenzo. Io vi ringrazio, vi saluto. No, ciao. io condivido in pieno tutto quello che hanno detto i miei compagni e le mie compagne. Sono molto contento che inizia questo ciclo di incontri. Vi suggerisco di andare a guardare, ahi noi, l'evento Facebook. Però quello ci rimane, infatti siamo veramente stronzi. Ne usciremo. E la vera rivoluzione, secondo me, è uscire tutti da questi dispositivi digitali. Sì, potrebbe esserlo. Un saluto caldissimo. Prego Blanca, sei arrivato il tuo turno, ce l'hai la frase? Ce l'ha. Si avventa sul microfono come un avvoltoio sulla preda. No, in realtà per niente. Grazie a tutti e tutte. Vi consiglio di seguire le prossime puntate in cui ci saranno più studenti e più studentesse. L'ha detto! Come me. Non me la ricordo. Giovedì 18, l'ecologia. Sull'ecologia, la presenza di Andrea Staid. Potremmo chiamarlo alla megaguatone? Vogliamo fare l'agguato finale? Potremmo farlo. Dai, proviamo a farlo. Siamo troppo zona rossa. Prego Blanca, parla ancora, tipo ho 9 minuti, abbraccio. Ok, no, la mia frase è: probabilmente se si spegnessero tutti i device digitali, allora avverrebbe la rivoluzione, nel senso che essa stessa sarebbe una rivoluzione in questo momento. Sono totalmente d'accordo, facciamolo, da domani. Io ci sto. Anch'io. Bene, già, siamo già in due. L'ultima telefonata agguato al caro Andrea. L'altra volta avevo una motosega in mano, chissà cosa avrà in mano adesso. Esatto. Forse una forchetta, perché sono anche le 8.03. Probabilmente sì, non mi lasceremo male. Quindi lui è l'ospite della prossima puntata. Esattamente sì, ha snobbato noi senza saperlo, giustamente. Ma andrà caduto tra le braccia di due compagne valevoli e valenti, cioè Chiara e Greta, che parleranno di ecologia. Fantastico. E di antropocentrismo, e di come antifascismo sia anche ecologia e lotta all'antropocentrismo. Probabilmente lo avviseranno prima di chiamarlo, non come noi. Vedi come risponde la segreteria telefonica di Zona Rossa. Si introduce anche in questa puntata. Siamo con fatti questa, così. Noi vi salutiamo, ci abbiamo provato, è andata in questo modo, è stato bello. Quindi il 18-2 c'è la prossima puntata. Yes. Tenete d'occhio il palinsesto, perché la settimana comunque va avanti, Radio ZM va avanti. Già. Buona serata a tutti e tutte. Ciao, grazie mille Dan. Grazie mille Dan. Grazie Marti. Grazie Sala, Blanca. Che ci ascolta, grazie Internet. Nuovi microfoni in radio per voi. Ciao.